No, ecco, io quel tipo di cosa che fanno alla Zanzara non lo ritengo né giornalismo né satira, sinceramente. Lo ritengo proprio una cosa che non va fatta. Cos'è? Ma gli scherzi dei bambini che fanno... sì, pronto? Cazzoni? Sono culone! La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Marco se n'è andato e non ritorna più. Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore. Tutta l'Italia politica è in subbuglio, caro David. Si discute di un presunto golpe di Napolitano nell'estate del 2011 per far cadere Berlusconi. Forse Italia forse vuole l'impeachment. Renzi non sa che fare, andare al governo oppure no. E Pannella? Anche se poi dice chi ce lo fa fare di andare al governo. E Pannella? Però ti faccio sentire qualcosa di imperdibile. Di imperdibile. Tu sai che Marcone Nostro è andato... Sì. A una manifestazione antiproibizionista. C'erano tre imbecilli che gli hanno detto: Marco, ma che stai a fa' qui? L'hanno un po' insultato, eccetera. Ma non avete sentito niente. Senti, uno a un certo punto si attacca al codino di Pannella, senti. Però il codino ti sta male, visto che c'hai il codino, dovresti levare un po' dei peli da orecchie. Non li voglio mettere. Se no, ce l'hai una che ma, te. No, ma sai perché? Quelle tutte vorranno tagliarmeli. Figurati. Vabbè, oh. Non è. Ti piace no, farti mettere. Sai qual è il sito? Ho detto quando è andato in pensione 3 anni fa il mio amico. Ecco. Oh, senti, ho dimenticato di dirti una cosa. Oh! Dai ragazzi, ma non ce lo mandate no, live band. No, invece ha fatto benissimo. Che gli dicevano sei stato con Berlusconi. E l'hanno insultato, gli hanno detto invece lui è andato lì. E lui è l'unico politico che però va in piazza ma sapendo dai, che lo fischieranno. Ma non lo lasciate andare lì, poveraccio. Ma no, ma invece lui è andato lì perché non ha paura. Non è come quei politici che si presentano davanti alle porte delle fabbriche. Ma lo pigliano per il culo, dai. Ma lui mette la sua faccia e il suo portatelo via. Probabilmente ha bisogno di altre cose. No, perché quella era a casa sua, è la battaglia dell'antiproibizionista, era casa sua. Vabbè, senti questa roba dei baci, senti un altro, ma si sottopone a delle cose pazzesche. No, aspetta. Tu giù da Pannella ti do baciate, prego. Grazie. Rossone, basi quel frocio di Pannella. Certo. Ma guarda che frocio che certo. È proibito. E mi piace pure andare coi trazzo. Dai su, voglio baciare a Pannella e mi piace pure andare con i tra. Cioè si sottopone a una roba non per cui sottopone. Amici radicali, prendetelo, non lo fate andare. Ma è sempre stato così Giacinto Marcone, sempre. Senti, quando si vestiva da Babbo Natale che era, scusa. Aspetta, se smetto di fumare, senti. Io se smetto di fumare moro. Porcazzo. Senti quanti Toscanelli fuma, questo ve lo sapevo. Fare qualunque cosa. Questo lo sapevo. Qualunque. Io fumo Toscanelli perché li aspiro pure 70 al giorno perché io sono un capitalista liberista. Non è finita, aspetta, questa è la più bella. Questo è quello alla grappa. Ah. E allora Bacco tabacco. Poi se vuole venere Apollo fate la sega. Ma Bacco e tabacco. Una foto possiamo farla. Non mi moleste moschitto. Non mi moleste moschitto. Non mi moleste moschitto. Oh, Renzi dice chi ce lo fa fare ad andare al governo. Non mi moleste moschitto. A me mi deluderebbe Renzi se andasse al governo senza passare per le elezioni. Ma sono tantissimi nostri che dicono ma perché dobbiamo andare, ma chi ce lo fa fare? E ci sono anch'io tra questi, nel senso che nessuno di noi ha chiesto di andare a prendere il governo. Ma la notizia di oggi è quella diffusa da Alan Friedman, amici miei. Alan Friedman, giornalista, che dice nel 2011, attraverso tutta una ricostruzione, testimonianze, nell'estate del 2011 Napolitano contattò Monti quando lo spread era ancora basso, non era, cioè la situazione non era drammatica, e insomma gli disse di prepararsi. Preparati, che fra qualche mese può darsi che ho bisogno di te. Monti che conferma, Lei non smentisce che nel giugno-luglio 2011 il Presidente della Repubblica, senza divulgare conversazione, le ha fatto capire o le ha chiesto esplicitamente di essere disponibile se fosse necessario? Sì, mi ha dato segnali in quel senso. Sentite, Sibillino, mi ha dato segnali in quel senso. Noi non parliamo con questo linguaggio qui in genere. Monti, tra l'altro, si trovò in Svizzera, sì, quell'estate. Vabbè, posso dirti che di questa storia a me non me ne frega assolutamente in Svizzera, nulla. La roba del 2011, certo, è importante per ricostruire a St. Moritz in Svizzera con De Benedetti. No, non era con De Benedetti, cioè era a casa sua. Vabbè, con De Benedetti, lascia perdere, con De Benedetti. Ma lo dici come fosse il capo della Magliana? Ma non ho detto però il capo della Magliana. È incredibile, siete ho voi. Detto era con De Benedetti voi a St. Moritz. Voi, è incredibile. Senti De Benedetti. Siamo ai primi di agosto 2011. Mario e Elsa Monti vengono a Mario cena da voi. Mario viene a cena, mi chiede, vediamoci. Benissimo, ci mettiamo nel mio studio, chiacchieriamo, e lui mi dice: guarda che è possibile che succeda questo, tu cosa ne pensi? Che succede, che cosa? Che succeda, cioè che San Politano mi chieda di fare il primo ministro. Perché il presidente Napolitano aveva già fatto le conversazioni. Aveva già fatto delle conversazioni preliminari. Abbiamo già un ospite. Abbiamo già un ospite, 800 24 00 24. Che c'è da mettere? Un grillo? Mettiamo un grillo? Accusato, secondo me, ingiustamente della vicenda, là dell'incitamento alle forze dell'ordine. Si è presentato con le manette in televisione nel weekend. Sentite. Quindi io non ho grossi problemi. Oggi il PM ha chiesto 9 mesi di reclusione perché io avrei rotto un sigillo, e c'è proprio la notifica, rottura di sigillo già portato via dal vento. Ora, era un sigillo che io non c'era, era un sigillo inconsapevole, perché ci sono anche i sigilli inconsapevoli. Sono entrato in una baita dove mangiavano della polenta, ho detto vieni a mangiare una polentina, sono andato. La storia in realtà è più complicata, ma abbiamo con noi il direttore del giornale, Alessandro Sallusti, buonasera. Buonasera. Come andiamo? Domani qual è il titolo? Golpe contro Berlusconi? No, il titolo più non o meno, ancora, dai. Però mi piacerebbe sentire Parenzo ammettere che Berlusconi aveva ragione, che il complotto ci fu. Ma quale complotto? Che lo spread fu creato ad arte, e questo sarebbe già una grossa soddisfazione. Ma vedi, direttore, Berlusconi, perché dovrebbe, credi a Napolitano, Parenzo? Dovrebbe, credi a Napolitano, alla lettera di Napolitano? Napolitano tutta la vita, Ungheria 56, vabbè, avanti adesso tutta. Non fare il buffone, no, dai. Scherzi a parte, Berlusconi dovrebbe, lo senti questo, bussare alla, sì, porta di Fini, semmai, per capire quello che sta avvenendo. Cioè, dice, il governo era già governo in difficoltà, dice. Tremonti veniva impallinato un giorno sì e l'altro pure da Berlusconi stesso, cioè i casini erano interni alla maggioranza. E poi Monti, a meno che Sallusti non sostenga questo, ma non credo, Monti non è il capo della Magliana, è il signor Monti che era stato commissario europeo messo lì da Berlusconi. Quindi però i contatti ci furono prima, Sallusti. Perché si è visto De Benedetti? Alessandro, perché Sallusti, rispondi a Parenzo. Ma innanzitutto Fini fa parte, fu il primo tentativo andato a vuoto di quello stesso complotto, cioè non è che Fini si è svegliato una mattina e ha detto faccio questo, così come Alfano adesso, non è che si è svegliato una mattina e ha detto io esco dal PDL. Sia Fini che Alfano, con poi di mezzo Monti, sono stati cooptati dal Quirinale come killer della maggioranza di centrodestra e di Silvio Berlusconi. Il problema è che Napolitano non ce l'ha fatta né col primo, né col secondo, né col terzo. C'era la regia di Napolitano anche prima, dici tu? Beh, insomma, questo credo che sia evidente, insomma, non è che ci vuole sapere delle cose segrete per arrivare a queste conclusioni. Cioè, secondo te si dovrebbe muovere la magistratura, siccome Berlusconi è sotto accusa per compravendita di voti al Senato, e la stessa cosa dovrebbe essere fatta con Napolitano, che ha cercato, secondo te, di cambiare la maggioranza più volte? Beh, insomma, sì, in un paese normale, in un paese libero, sì, bisognerebbe mettere in stato d'accusa il Presidente della Repubblica, per quantomeno per capire esattamente come andarono le cose. La differenza è che difficilmente come dire, ci sono delle carte che possono testimoniare o provare, però ci sono dei testimoni, due o tre sono usciti allo scoperto, ma ne mancano tantissimi, perché Draghi, eccetera. A questo libro, a questa ricostruzione di Friedman, manca un tassello fondamentale, cioè il ruolo delle banche e il ruolo dei paesi esteri, mancano due tasselli. Ma secondo lei davvero Forza Italia dovrebbe andare dietro ai grillini su questa storia dell'impeachment di Napolitano? No, dietro l'impeachment dei Grillini no nel merito, perché l'impeachment dei Grillini è molto debole, cioè non sta in piedi. Cioè farne uno suo su questa roba qua. Come l'hanno costruito. Io credo che sarebbe un'ipotesi per nulla stravagante, insomma, perché qui la risposta di Napolitano, che è arrivata pochi minuti fa con una lettera al Corriere, è imbarazzata, imbarazzante. Dice, perché? Sì, è vero, io ho visto Monti, ma è un vecchio amico che io conoscevo, ma come un capo dello Stato parla con un vecchio amico di ribaltare un governo? In realtà il direttore dice molto di più, cioè a me dice che prerogativa del capo dello Stato è anche quello di fare incontri riservati, quella è la parte più grave, se vogliamo. Perché in quella lettera che tu giustamente citi... anche nella trattativa Stato-Mafia fece degli incontri riservati. Voglio dire, ma il fatto che lui... Il problema non è che fossero riservati o no, il problema è che erano alle spalle del Parlamento, alle spalle dei partiti, alle spalle di tutti, cioè parlava con Bazzoli, con Monti, probabilmente con De Benedetti stesso, cioè, voglio dire, gli incontri riservati li fa con i segretari dei partiti e con i capigruppo, non cioè è incontrava persone estranee alla vita politica italiana, le persone strane, nel senso persone formalmente strane alla vita politica italiana. Uno era il rettore della Bocconi, l'altro era il capo di un gruppo editoriale, almeno quelli che si conoscono, un altro era l'ex presidente della Commissione Europea, nonché ex presidente del Consiglio. Cioè, tu pensi davvero che il Quirinale sia stato il centro di una grande trama per defenestrare Berlusconi? Beh, lo è tuttora. Questo, cioè, vogliamo immaginare impossibile che la seconda carica dello Stato, cioè il Presidente del Senato Grasso, faccia quello che ha fatto pochi giorni fa, cioè smentisca il voto dei senatori senza l'avallo di Napolitano. Cioè, poi possiamo credere anche alle favole, ma insomma che Alfano non abbia trattato con Napolitano le garanzie per riuscire a mettere in difficoltà addirittura che si pensava mortale Berlusconi. Lo definiresti un traditore della patria, Napolitano? Un traditore del ruolo dell'arbitro sicuramente, e poi di conseguenza non ha fatto un buon servizio alla patria. Parla in queste ore anche Farinetti, uno dei grandi sponsor economici di Matteo Renzi, dicendo che Berlusconi si deve ritirare. Poi ha detto che ormai Letta non va più bene. Ha cambiato un po' idea rispetto a qualche settimana fa, quando diceva che Renzi e Letta devono andare d'accordo. Adesso invece Letta si è dimostrato inadeguato, Renzi deve prendere in mano la situazione. Però su Berlusconi dice che si deve ritirare. Nella vita si può fare bene e fare male. A me è capitato un sacco di volte di fare male, perché non le c'entro tutte. Quando ho fatto male mi sono ritirato e ho cambiato. Io credo che tutti i politici protagonisti di quel periodo è giusto che facciano un passo indietro e lasciano spazio a nuove generazioni, ma molti l'hanno fatto, fatto anche bene, e non capisco perché lui si ostina a voler restare lì. Si sbronzano di me e festeggiano sul cuscino. Qualche volta Farinetti è addirittura più estremista di Renzi da questo punto di vista, perché se lo può permettere. Ma torniamo alla vicenda del grande complotto. Voglio chiedere al direttore generale Sallusti se Napolitano, se è vera questa storia delle trame, in Napolitano resta una traccia delle trame di palazzo comuniste, insomma, no? Il vecchio stampo non si scorda mai? Beh, questo è un fatto naturale e umano, cioè se Napolitano è stato per 30 anni uno dei leader del Partito Comunista e quindi non è che improvvisamente uno può non essere più quella cosa lì, può rivedere alcune posizioni, può attenuare, adeguarsi ai tempi, ma il DNA è quello. Il DNA comunista che si ritrova anche in questa vicenda, secondo te, con queste trame, diciamo, anche, anche con grandi contatti, no? Banchieri, uomini d'affari. Ma no, ma lo dite come fosse veramente. Beh, assolutamente sì. Ma a proposito di io trovo anche gravissimo che il presidente Monti, sì, nominato poi poco dopo quei colloqui estivi senatore a vita, abbia messo al corrente l'editore di un giornale, tessera numero uno del PD, cioè abbia messo al corrente una parte politica un giornale, sì, ho capito, di una cosa così decisiva per le sorti del paese. E io escludo che l'editore De Benedetti, tessera numero uno del PD ed editore di Repubblica, non abbia a sua volta influenzato in qualche modo o messo al corrente in qualche modo i vertici del PD e il vertice del suo giornale. E da qui poi si capiscono tante cose, tante campagne. Però Alessandro, scusami. È vero anche, come dice Parenzo, che in quell'estate la situazione del governo era traballante. Cioè Traballante, ma lo spread era 196. Voglio dire, a noi ci hanno raccontato che Berlusconi che è arrivato Monti perché lo spread era 500, invece si sta scoprendo che lo spread è arrivato a 500 per permettere a Monti di fare il blitz, a Monti e Napolitano, cioè, di fare il Napolitano blitz. Ha adesso fatto arrivare la prossima lo spread. Risposta che aspettiamo è chi ha portato lo spread a 500. Napolitano. Non è difficile immaginarlo. Anche Napolitano? No, l'hanno portato quelle banche, il sistema finanziario internazionale che sta dietro questa operazione. De Benedetti non è proprio uno che è estraneo alla comunità finanziaria e internazionale. Cioè De Benedetti ha speculato su questa vicenda? La Merkel che c'entra con questa storia nella ricostruzione del Financial Times, ci sono anche dei passaggi che non ci sono sul Corriere della Sera che riguardano il ruolo della Merkel. La banca tedesca non è estranea alla vendita massa. Beh, però dietro a tutto questo c'era una debolezza. Se il governo fosse stato forte nessun governo in Italia è mai stato forte, pure è vero. Dire, ma la storia è diversa da come ce l'hanno detta. Poi che il governo fosse forte o debole è tutto un altro discorso, un altro giudizio, ma comunque non è andata come ci hanno fatto credere. Parenzo, vogliamo chiedere al direttore Saluzzi se nella sua vita si è mai fatto una canna? Lo so che non c'entra niente, però non l'ha mai fatta. Sì, secondo me sì. Quando da giovane non era così impegnato, in un momento di debolezza, che ne so, in un momento di a casa con la Daniela Santanchè. No. E che ne so, mai. Adesso sono troppo vecchio per farmele. Ma perché? Da giovane vivevo in una città di provincia e facevo ho fatto anche per alcuni anni proprio nella gioventù l'atleta quasi professionista, e quindi era un mondo a me estraneo, ma non per moralismi o per cose, semplicemente la vita non mi ha mai fatto incrociare quella cosa lì, neanche uno spadone, non mi prendo dei meriti particolari. Beh, però legalizziamola, no, Saluzzi, o no? Legalizziamola, dai, su, facciamo, noi siamo grandi fautori della legalizzazione, legalizziamo la droga leggera. Noi siamo anche grandi consumatori di droga leggera. No, tu sei consumatore, io no. Ma io guarda, da liberale dove la risposta appunto dovrebbe essere sì. Risposta dovrebbe essere sì. Ci sono certe libertà che onestamente mi fanno paura e sono pericolose, perché allora, da liberale vorrei anche andare in giro senza casco e non avere i limiti di velocità, vorrei fare tante cose libere. Vabbè, quindi, sì o no? Sì o no? No, direi di no. Vabbè, ma che delusione però. Ma qui bisogna legalizzare, per cambiare le cose. Potresti anche venderle con il giornale, grande campagna del giornale, da domani, disobbedienza civile. Per aumentare, far uscire l'editoria dalla crisi. Questo stai sicuro. È geniale. Ma quindi insomma, Napolitano è quello del 50, per tornare solo su questo tema, che mi piace molto questo battagliare. È rimasto quello del 50. È quello del 50, cioè questa è la nostra Ungheria, sostanzialmente, questo è un po' il punto. Ma ognuno resta quello che è stato, non è che può trasformarsi. Berlusconi è quello del 94, certo, nel 2014. Ma lo odia proprio, secondo te? Napolitano odia Berlusconi? Cioè, sì, credo sia proprio addirittura diventato un fatto personale. C'è un odio perché è comunista, lo odia perché Berlusconi è quello che ha umiliato e impedito la sua parte politica. In quell'epoca Napolitano nel 94 era un dirigente però l'ha fatto rieleggere Berlusconi, cioè no, il primo mandato di Napolitano Forza Italia no, adesso l'ha fatto rieleggere, non lo votò. Adesso la politica è fatta anche dei mali minori e probabilmente in quel momento Berlusconi per uscire dall'angolo in cui era. Cioè, tu dici che Napolitano è proprio inascidito con Berlusconi, ha proprio una un... Sì, più che napolitano mi dicono che odia Berlusconi è la moglie, la quale ha molta influenza sul marito, sì. Che abbia, come dire, contribuito ad aumentare questa addirittura incompatibilità. Cioè Clio Napolitano ogni sera andando a letto con Giorgio gli dice Berlusconi, sì, credo una roba del genere, ma poi la vita è più semplice di quello che quello pensiamo, è sicuro, tipo Raimondo, tipo Sandra e Raimondo, insomma, che barba, che noia, sì. Che noia, che barba, una roba del genere. È lì che scalcia con le coperte, col plaid, e dice Giorgio fai qualcosa, Giorgio. Cioè, ma perché Clio Napolitano non dovrebbe sopportare Berlusconi? Pappelle, proprio una cosa così. Beh, a pelle, insomma, anche lei è una comunista tutto d'un pezzo, è stata una comunista tutto d'un pezzo, e signora, Berlusconi rappresenta l'opposto del cioè, poi le donne, gli farà schifo sicuramente, gli farà schifo questo Berlusconi di Bertino, a me piace Berlusconi di Bertino, che devo fare? Più è libertino, più mi piace a me, che devo fare? Caro Parenzo, tu sei diventato invece di un moralismo, sei monogamo, per esempio, la monogamia, come dice Parenzo dell'Andrangheta, no, dice, sei ma monogamo, come dice l'editore, uno degli editori dell'Unità, dice che la monogamia bisogna avere, ormai bisogna instaurare il poliamore. Sì, questo signore. Il poliamore, lo dice, non è che lo dice uno, uno degli editori dell'Unità, il signor, come si chiama, Mian dice bisogna instaurare il poliamore. Sì. Vabbè, so che adesso Sallusti non lo può dire, ma io sono sicuro che dentro di sé la pensa come me. Mamma mia. Io sono poli e non contemporaneo, a me piace molto sposarmi, l'ho già fatto un paio di volte. Purtroppo. Come un paio? Come lo rifarà? Si vuole sposare con la Santa Che? No, dicono, non appicci con nome, dico che adesso però quello è. Sono stato poligamo nel corso della vita, non in contemporaneità. Avrà tradito qualche volta in vita sua? No, mai. Beh, insomma, sì, ma certo. Stato, sì, certo. Ma no. Sì, dai, ma come no? Non ho capito, ma Parenzo, ma di che stai parlando? Di ma è normale. È talmente reazionario. No, ma la cosa più assurda, perché io lo adoro Sallusti, per me, e ce ne vorrebbero di più. Anzi, il dibattito poi serve molto più vivace. Vabbè, se non cominciare a lisciare il pelo. Ma no, è vero, ci vuole più Sallusti. Hai bisogno di una collaborazione, di soldi, hai problemi economici in questo periodo? Non mi prenderebbe mai, signor Sallusti. Ma che ne sai? No, non è vero, anzi, con Parenzo abbiamo anche lavorato insieme. Ah, è vero. Non è detto. Comunque, troppi matrimoni fanno male, uno spende troppi soldi. Ma quanti matrimoni ha fatto Sallusti? Due, come no? Due compiuti, sì. Due compiuti, per carità, un sacco. Adesso di... arriva il tempo. Bisogna dare un sacco di soldi, ma che siamo impazziti? Ma io dico, come uno può pensare... Vabbè. Ciao Alessandro, a presto, ciao. Buona serata. Purtroppo a me questa trasmissione un po' piace, anche se mi fate rompere il coglione. Nel mio spazio sotto il salice, non stare lì così, mettiti comoda, sull'erba butto spesso il piede. Ho un segno prima perché ho messo il piede su una palla di Dudu, ho fatto un volo di 4 metri. Sono planato e poi quando sono tornato gli altri che mi hanno visto tutto pieno ho detto che fortuna che ho avuto, come che fortuna, l'esperienza serve. Adesso tieni gli occhi aperti, baciami, se ti lasci che piano si avvicina, ti sembrerà una festa un poco sadica. Ci fu la vicenda del Bunga Bunga. Bene, bravo. Io oggi a dei ragazzi che sono venuti su con Licia ho concesso l'onore di visitare la sala cult del Bunga Bunga, erano molto emozionati. Ma no, guardi, siccome adesso siamo un po' in crisi, ho pensato di farlo visitare e ho pensato anche un po' di prezzo, 35 euro. Caro Parenzo, da questo casino di Napolitano, dai tentennamenti tra Renzi e Letta, tu lo sai che è l'unico ad avvantaggiarsi nel Cavaliere, lo sai, sì, ne sei consapevole di questo, sì. Certo, questo... Però è un cavaliere che a un certo punto sbaglia telefonata perché doveva chiamare Cappellacci, non so che cosa. In realtà lo chiama, ma non è dove pensa, non è Berlusconi. Senti. Una osservazione preliminare e poi mi fate voi delle domande. Avete fatto apposta per me e per la mia veneranda età a scegliere come sede di questo evento l'hotel Ai Patriarchi? No, presidente, sei in collegamento con Cagliari. Così, qua siamo al Miramare e Non mi sento, avvicinati un po' di più, perché data la venerabile età mi è caduto anche l'udito. Presidente, siamo in collegamento da Alghero, siamo in collegamento da Alghero dal cinema Miramare, e siamo qui, c'è il popolo dei moderati, c'è il popolo di Forza Italia, tutti gli alleati che ti salutano e ti abbracciano affettuosamente. Grazie di essere qua con noi in collegamento. Grazie a voi. Cioè, Berlusconi pensava di chiamare non so quale altro incontro ad Aquileia, hotel ai patriarchi, invece era Cappellacci all'hotel Miramare, anzi al cinema Miramare di Alghero. Bene. Oh, è ricomparso sul web qualcosa di un pezzo cult. Casalino, Rocco Casalino, coordinatore della comunicazione dei 5 Stelle alla Camera, ex Grande Fratello, intervistato alle Iene nel 2004. Parla dei poveri che odorano come i neri, chi è povero puzza di più, eccetera eccetera. Ha un odore diverso dal ricco? Non so, l'odore? Completamente. L'odore? Povero ha un odore molto più forte, molto più vicino a quello del ricco. Cosa? Hai mai provato a portarti a letto un rumeno? No. O uno di questi paesi del ricco? Tu sì, si lava, gli fa fare 10 docce. Continua ad avere un odore agrodolce, non so che cavolo. Agrodolce? Però lo senti? Ristorante cinese? Una pelle. Il vero problema degli extracomunitari è proprio dei meno ambienti che vivono nelle zone invase dagli extracomunitari. Allora? Investiamo tantissimi soldi per rendere gli italiani civili e invece poi abbiamo sta gente che non ha questo tipo di preparazione di base. Ed è grave. Questa gente è tutta gente senza istruzione, noi la stiamo facendo entrare, è un pericolo. C'era il commento della Chalapas, ma sostanzialmente dice che gli extracomunitari meno ambienti sono un pericolo, che puzzano, meno ambienti ovviamente puzzano perché sono più poveri. Poi dice, sei mai stato con un rumeno? Odora di agrodolce anche se lo lavi 10 volte. Ma sono cose che Rocco Casalino pensava nel 2004, TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Napolitano scrive al Corriere della Sera che aveva ricostruito la crisi del governo Berlusconi. Fumo, soltanto fumo, nessun complotto. Letta, vergognoso tentativo di mistificazione. Forza Italia tentata dall'impeachment. I capigruppo, troppi punti oscuri. Grillo, dica non sia la messa in stato d'accusa. Il Premier impegnato nel rilancio del governo. Nei prossimi giorni il colloquio con il Capo dello Stato. Domani è il via alle votazioni sulla legge elettorale. Si alza il tono dello scontro tra Roma e Nuova Delhi sui due Marò. Per il nostro governo l'accusa di terrorismo è inaccettabile. Nuovo rinvio della Corte Suprema indiana. Dalla Svizzera schiaffo all'Europa. Il sì al referendum pesa sulle elezioni di maggio. Bonino, effetti preoccupanti. Timori dei frontalieri italiani. Ad Ancona un manifesto sessista solleva le proteste delle donne, ma il noto sarto che ha commissionato la pubblicità risponde con insulti su Facebook. Fazio al Festival di Sanremo, buona musica, bella Italia, un omaggio ai 60 anni della televisione. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Bella, eh? Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Noi stanotte figli delle stelle, ci incontriamo per poi perderci nel tempo. Io, David Parenzo, voglio bene a Dell'Utri. Voglio bene a Dell'Utri. Prendo le distanze da questa dichiarazione che è stata estrapolata da un contesto. Noi siamo figli delle stelle. Beh, stupenda canzone, eh. Sai che il titolo anche del libro Dopo le fistole al culo, scusa? Non dopo le fistole mi è al culo la... Il nostro amico professor Paolo Becchi, soprattutto no, amico tuo, perché tu non lo sopporti, tuo amico, ha, no, pubblicato, no, ha pubblicato un altro libro. Paolo, Ciao, buona serata a tutti ragazzi. Ma voi mi fate risorgere oggi. Mi avete messo Figli della Stella di Alan Sorrenti. Eh beh, siamo al top qui, eh. Ma grazie, grazie ragazzi. Buona serata a tutti, vecchi, agli ascoltatori. Comprate tutti, comprate tutti Istanbul, o no? Istanbul, sì, sì. Becchi, il becchino della democrazia. Ma becchi, come becchino? Non dire, ma non è vero. Il becchino, dai, della democrazia, il cantore dei Five Stars. Beh, il cantore che l'uomo c'è, del web, tutto il web. Ma il web non è mica antidemocratico, anzi. Sei il becchino della moderna democrazia. Democrazia. Beh, professore, becchino, io voglio sapere una cosa. Queste, sì, rivelazioni che sono uscite oggi ti sorprendono? Cioè, secondo te il grande golpista napolitano, come lo vogliamo definire? Ma guarda, io non mi sorprendo di niente, perché io nel gennaio del 2012 avevo scritto le stesse cose, non avevo i documenti che porta questo giornalista Friedman, in realtà non ci sono manco i documenti, forse ci saranno stasera dove stai documento andando a Piazza Pulita, no, sì, però, li tirerà fuori, dire, dice, li tirerà fuori stasera. Il dato di fatto, scusami, sì, per gli ascoltatori, il dato di fatto è che il governo Monti è stato istituito in un giorno, dopo averlo nominato senatore a vita, sempre in un giorno, sì, di crisi del governo, e dal Presidente della Repubblica, cioè praticamente, certo, poi ha avuto la conferma del Parlamento, beh, certo, ma un voto di sfiducia nei confronti di Berlusconi in Parlamento non c'è stato. Però scusami, scusami professore, però non si è mai visto un golpe, non si è mai visto un golpe col sostegno ai voti di quelli che sarebbero stati anche le vittime del golpe. Cioè, quelli, le vittime del golpe forse non lo sapevano che c'era un golpe, però poi lo hanno appoggiato Monti. Ma certamente l'hanno appoggiato, ma questo è una linea politica che è stata presa e che continua adesso con il governo Letta, ma questo non mette in discussione il fatto che il nostro sistema democratico, che è di tipo parlamentare, sì, è stato, a mio avviso, violato sia con il governo Monti, sia poi con le elezioni del Presidente della Repubblica e con il nuovo governo. Cioè, il dato di fatto politico è che ci troviamo di fronte a un Presidente della Repubblica che fa effettivamente il Presidente della Repubblica in Francia, ma siamo in Italia, non in Francia. Cioè, secondo te il fatto che lui sia andato a parlare con Monti, che poi a sua volta è andato a parlare con De Benedetti, con Prodi, chiedendo consiglio nell'estate, abbia sollecitato Monti prima, nell'estate del 2011, è una cosa scandalosa, gravissima? Ma secondo me è scandalosa, ed io, sempre che venga confermata, ed è gravissima, perché adesso capiamo benissimo cosa è successo dopo, uno spread alimentato, sì, ad arte. Lo spritz, se no quello uno non è. Spread, scusami, uno spread. No, no, lo spritz è ottimo anche quello, uno lo beve a Padova. È ottimo, se metti un po' di Aperol, metti un po' di una scorzettina di limone, spritz è meglio dello spread. Scusami, alimentato ad arte in quella determinata condizione, attacco Mediaset, andatevi a vedere in quel periodo lì quanto perdeva Mediaset, la stavano distruggendo, a quel punto, cioè, secondo lei Berlusconi su questo punto ha ragione, cioè è stato oggetto di un complotto? No, ma lo dica tranquillamente, lei certamente non è un amico di Berlusconi da questo punto. No, ma ne sono perfettamente convinto, sono stato il primo a scriverlo nel gennaio 2012 sul giornale, il colpo di stato sobrio, l'ho scritto nel gennaio 2012, credo di essere stato il primo a scriverlo. Dunque farebbe bene, come è stato sobrio, perché qui c'è troppa gente ubriaca secondo me intanto, primo. Sì, caro il mio Becchi, ma caro che Becchi, non è sobrio, goccio, ma scusami, fai male, perché la lucidità della tua analisi, come dire, vacilla come il claudicante. Allora torniamo con Alan Sorrenti tra poco. Qualcuno dice Anal Sorrenti, che è un'altra cosa. Fammi però dire una roba. Aspetta, ma fammi dire una roba. Siamo alla pubblicità, alla borsa. Poi, tra l'altro, il professor Becchi deve andare. Però lo tratteniamo ancora 5 minuti. 800 24 00 24. Ritorniamo con Alan Sorrenti. Mi raccomando, voglio una colonna sonora tutta la sera. Alan, non so perché mi sono fissato su sta cosa, cazzi miei. Fa male solo a chi non sa ridere. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira. Professor Becchi, canti con me. Sì, no, ma io non so cantare bene. La lascialo ascoltare, che è bellissima. Senti, Giuseppe. Dimmi, caro. Io volevo dire una cosa che mi sembra che importante, che è questa. Ma secondo te, se gira su adesso, te la faccio dire. Se Napolitano gira per strada senza scorta, che succede? Ah, ma guarda, io credo che lui abbia una scorta grossissima, ma non è il problema di Napolitano, guarda. No, ma se vai in mezzo alla gente, che succede secondo te? Ah, beh, bisogna bisognerebbe provare, non lo so proprio. Dicono che sia molto amato dagli italiani, quindi non gli succederà niente. Ora, il problema però è questo. C'è una procedura aperta nel Parlamento di messa in stato d'accusa. Ma pare che non vada da nessuna parte. Ora, ecco appunto, Giuseppe, io voglio dire questo. È un appello, come semplice cittadino italiano. Perché questa commissione che dovrà decidere non lascia al Parlamento almeno di esprimersi a riguardo? Loro, la commissione, il comitato ha detto in 20 minuti chiudiamo tutto. Questa non è democrazia. Lasciamo che la discussione... Ah, tu dici che dovrebbe comunque andare in aula questa roba. Lasciamola andare in aula. Io lo dico, io sono convinto. Provate a fare un sondaggio. Però non è che poi, non è che poi tutte le cose di impeachment possano andare in aula, altrimenti diventa... C'è una procedura, cioè, diciamo. Diventa un caos. No, ma di impeachment ne abbiamo avuto due praticamente. Il primo è stato solo ventilato. Non è che facciamo un impeachment alla settimana. Questa è una situazione seria. Perché non lasciamo che il Parlamento in seduta comune discuta sul caso Napolitano? Ma non è tutta una giostra di Inter, ma non è tutto un gioco, ma non è tutto... Lasciatela agli italiani. Scusa, ma quanto odia i 5 Stelle Napolitano? Quanto li odia? Beh, insomma, stando alle dichiarazioni, è questo il problema, capisci? Il grosso problema è che un Presidente della Repubblica non può odiare nessuno nel momento in cui odia qualcuno, non è più Presidente della Repubblica, e questo è il dramma del nostro Paese. E la moglie c'entra qualcosa? Perché prima ci hanno detto che la moglie... C'è una notizia clamorosa. Ma no, lo so, io delle cose loro private sono personali, ma è proprio questo il problema. Però scusi, adesso ci deve dire... Presidente della Repubblica non può odiare nessuno politicamente, personalmente potrà odiare chi vuole, ma dal punto di vista politico non può odiare nessuno. Ma questo odio nei confronti di Grillo, a parte le dichiarazioni, come si... lei sa qualcosa in più di questo odio nei confronti di Grillo? Ha fatto qualche mossa, qualche cosa? Ha detto qualche cosa? Beh, ci sono un sacco di discorsi, tutti i discorsi che ha fatto sono in cui si parlava del Movimento 5 Stelle, non ha fatto altro che parlarne male. Ora basterebbe andare su internet e ne trovi una ventina, trentina, tutte le volte che lui parlava del Movimento 5 Stelle ne parlava male. Faccio un appello a Forza Italia a votare l'impeachment con Grillini, su. No, io faccio un appello alla commissione. Certo, nella commissione c'è Forza Italia, il presidente della commissione è La Russa. La Russa è un deputato, La Russa è anche un avvocato, no? Senza perderci nei cavilli giuridici, scusate, sono un po' alterato, sì, scusa, dei cavilli giuridici. Ci sono dei motivi politici forti. Lasciamo che attraverso il Parlamento, che è il luogo centrale della sovranità. Ma succede un popolare, casino, professor Becchi, succede un inferno. Se Napolitano cioè si vota alla Camera sull'impeachment, succede un inferno. Cioè, ammetta che questo impeachment... No, non succede assolutamente, si apre una discussione pubblica sul caso. Ma secondo lei che fine dovrebbe fare Napolitano? In pensione, a letto, in una casa sua? Guarda, io penso che la soluzione giusta sarebbe stata quella che Napolitano propose nel 91, mi pare, a Cossiga, cioè? Quando gli propose di dare le dimissioni, e Cossiga si dimesse. Cioè, la stessa cosa che disse a Cossiga dovrebbe ripeterla adesso a se stesso, diciamo, no? È quello che penso io. Comunque Berlusconi in questa storia del complotto eccetera c'ha ragione. Beh, io penso di sì, penso che sia. Lui è stato buttato via da un giorno all'altro, no? Dopo aver dato le dimissioni, senza un voto di sfiducia. Secondo me già questo non è un fatto. Però regolare. Scusi un attimo, ne avete parlato quando vi siete sentiti? Puoi immaginarti, sì, guarda, di tutto e di più. Te l'ho detto, prima fammi pubblicare l'anatomia del dolore, poi parliamo dei miei incontri con Silvio. Cioè, avete parlato a lungo della vicenda del complotto. Secondo romanzo. Va bene. Ciao, buona serata. Ciao, buona serata a tutti, ragazzi. Ciao. Noi siamo figli delle stelle. Allora, Sergio da Milano, 800240024, secondo il professor Becchi, 5 Stelle, ha ragione Berlusconi a parlare di complotto. Vi rendete conto o no di che cosa siamo arrivati? Vabbè, dai, Sergio. Becchi non andrà neanche a scuola, elementare, ma non importa. Io sto impazzendo. Ma perché impazzendo, stai impazzendo? Veramente. Perché? Perché si continua in tutti i programmi, anche il vostro stasera, a chiamare Sallusti. Ma che cosa volete che dica? Ma saranno cazzi nostri o no? Ma saranno cazzi nostri? Ma che cosa volete che dica? Domani mattina, se parlasse male di Berlusconi, va a fare il contadino, perché non lo vuole nessuno. Vabbè, ma lei sta dicendo che è un servo, uno schiavo? Dice le fesserie, ma un sacco di fesserie. Vabbè, ma questo lo giudica lei, tranquillo, poi lei altri può chiamare, si può sfogare contro il signor Sallusti, allora? Sì, beh, io, Io tutte le volte lo vedo in tutti i programmi. E beh, allora? Beh, ma non è un crimine questo. Non è un crimine, sicuramente che non è un crimine. Ma perché lei è così avvelenato? Ma perché sento che lui è avvelenato. Non io che sono avvelenato, lui avvelena me. Perché avvelena tutta la politica. Lui racconta barzellette, racconta di tutto. Ma volete che dica anche una piccolissima parola contro Berlusconi? Ma ho capito, ma certo, ma lo sappiamo già dall'inizio. Cioè, anzi, per quello che viene chiamato. Ma loro che vanno a pigliarlo per il culo, va bene. Ma no. Qualche volta sì, qualche volta no. Ci divertiamo. Lei perché non vuole farci divertire? Scusi. Ah, beh, se volete divertirmi, mi diverto anch'io d'ora in avanti. Vi ascolto divertendovi. Ma quello deve fare lei. Mi sono divertito molto a sentire Becchi. Senta, per esempio, caro Sergio, come la questione della Svizzera, no? Che vuole mettere le quote agli stranieri adesso, segnala che cosa? Che c'è un vincitore, tu te lo ricordi, il mitico Giuliano Bignasca. Beh, come morto no, qualche tempo fa, ma in realtà il vero vincitore di questa partita è lui. La zanza, sentitelo, sentitelo in azione. Adesso in Ticino c'è un'emergenza rom. Scusate, ma i rom devono andare in Romania. Mi sembra che Sarkozy sta mandando in Romania, che l'Italia sta mandando in Romania e che questi bei imbusti qua che hanno fatto 117 furti in 3 mesi e pubblicheremo la lista dove hanno fatto i furti senza gli appartamenti, solo le ditte, questa gente di tenere in galera almeno per 10 anni. Questa era contro i rom. Lei russa e sogna i fatti suoi. I tunisini che sbarcano a Lampedusa dicono che vogliono andare o in Francia o in Germania o in Svizzera, no? Perché sanno benissimo che ci sono un po' più di soldi che in Italia. Perché voi ragazzi siete falliti come nazione, falliti. Il vostro bilancio è falliti. Ed il sonno poi mi assale. Io non ce l'ho con le persone di colore, dico solamente che il calcio, che diciamo così è uno sport stanziale, svizzero, italiano, eccetera, eccetera, non dovremmo prendere un Nkufu che è nato in Congo e farlo giocare qua. Se fosse nato qua in Nkufu non ho problemi, ma dato che è nato in Congo non lo porto dal Congo a giocare il calcio qua in Svizzera. Questo era il leader della Lega dei Ticinesi, il mitico Giuliano Bignasca, però devo dire che poi gli svizzeri quando devono... no, quando devono importare dei capitali non è che sono così schizzinosi, eh. E se togliessimo gli stranieri, quelli naturalizzati che hanno fatto diventare svizzeri per esempio dalla nazionale di calcio che farà i mondiali, giocherebbero solo in tre titolari, gli altri sono tutti naturalizzati stranieri, adesso vogliono mettere le quote, ma andassero a far culo, va. Bruno Verona. Ciao Giuseppe. Dimmi. Adesso non c'è viva voce, parliamo tranquilli. Vai. Non voglio fare il professore, Giuseppe, però prova in questo intervento mio a non dire dunque, quindi, allora. È un ma parla, comincia a parlare, forza, comincia a parlare. Allora, dai. Io ti parlo, ti voglio bene perché? Perché mi fai divertire, mi fai incazzare, mi diverto, rido, rifletto, anche David, ok? Però perché chiamo? Perché secondo me hai degli atteggiamenti lesivi della tua immagine, Giuseppe. Sì, ecco lo psicologo. E quelli sono questi atteggiamenti. Ecco lo psicologo. Quelli del libertino, quelli dello sciupa femmine. Sì, ecco è arrivato. È arrivato lo psicologo, dai. In Toscana? Sì. No, non ti voglio insegnare niente, però ti voglio far riflettere. Sì. Ero in Toscana e sento Daniela, la compagna di Alessandro che ha parlato prima. La compagna di Alessandro, sì, Daniela Santanchè, la compagna di Alessandro Sallusti, sì. Bravissimo. Bene. E la Daniela. Sì. Donna di classe, ti ha sotterrato quella sera lì. Non so di che stai parlando, fatto... Bruno. Non so di che stai parlando. Stai parlando di una cosa, di un suo intervento qui alla radio? Sì, che ti ha detto benissimo, che non bisogna. Mi ha sotterrato. Non è che ha detto... Andiamo avanti. Poi? Allora, ti ha sotterrato perché ha detto che non bisogna darla come se non fosse. Sotterrato, tua. Ha espresso il suo parere, la sua opinione su questa. Vabbè, roba qua del sesso. Dai. Il tuo. Però il giorno dopo ti dico, Giuseppe, perché ti voglio bene. Sì. Io su Google metto Giovanotti Cruciani, che neanche sapevo sta storia qua, no? Che beh, sei rimasto un po' indietro, sei poco informato. Mi dispiace, caro Bruno, sei poco informato. No. Sei poco informato. Se sei poco informato, non chiamare. Allora ti spiego. Su Google ti viene fuori. Sì, ma ho capito, ma sei poco informato. È una roba vecchia, molto vecchia, capito? È una roba molto vecchia. Che ti dice anche che il ma è una roba vecchia. È una roba vecchia. Stai parlando di robe vecchie. Sei rimasto indietro. Vabbè, Giuseppe, io volevo farti riflettere. Ma non sei il mio psicologo. Cioè, no, non sei. Dice per la tua immagine faresti meglio. Ma sono affari miei. Ma chi è questo qua? Il curatore d'immagine? Ma no, chi è questo, Bruno? Ma per carità. sta facendo lo spiritoso. Quella cosa lì poi è venuta fuori l'intervista a Squitieri. Ma che te ne frega a te? Ma che c'entra l'intervista a Squitieri? Che c'entra l'intervista a Squitieri? Posso democraticamente esprimere una cosa. Ma tu hai già detto troppo, questo è il punto. Cioè... No, ti dico una cosa e finisco lì e faccio l'ultimo piccolo commento. Hai già detto troppo. Di venerdì. Hai detto troppo. Che, scusami Giuseppe. Sì, dimmi. Ma mi dice con Squitieri mi hai detto che tu hai una figlia e non lo sapevo, no? Senti Bruno, io ti ho sopportato troppo per amore della democrazia, per amore del dibattito, della trasparenza, ti ho già sopportato troppo Bruno, vedi di chiudere questa tristissima vicenda, questo tristo intervento privo di qualsiasi costrutto, semplicemente destinato a un tentativo di farmi arrabbiare che non riuscirà, per cui cerca di nominare le persone, alcune persone, quelle che hai detto prima in maniera corretta e chiudi questo discorso ridicolo, capito Bruno? Va bene, ecco, allora bravo. Ne apro un altro che il vero Latin Lover ce l'ha in casa, perché David, ti dico, 4 anni fa. Eccolo un altro. Ho ascoltato che tornavo da... Ma questo da che è malato, ma che tu sei malato, ma quanto... Ma, scusa un attimo, caro Bruno, ma tu trombi o no? Chi è questo qui? Sì, stai tranquillo Giuseppe. Che no, ma mi pare che hai un problema da questo punto di vista. Cioè ti occupi troppo degli affari degli altri. Cioè, sei attento a tutte queste cose qui perché hai qualche problemino forse, o no? No, ti do una chicca. Sei tranquillo, la chicca su Davide. Sentiamo la chicca su Davide. 28 minuti con la Palombelli. Sì, 28 minuti con la Palombelli. Davide Parenzo che presentava il suo libro. Ma sì, ma quanti anni fa? Era forse non era ancora nata. Vabbè, allora che vuoi? E ti dico, sembrava un'altra persona, io Davide devo fargli i complimenti perché è un camaleonte della comunicazione, vabbè. Altro tono di voce, sì. Altre espressioni, altre cose, bene. Farò un bel imbrodo di giuggiole e io complimenti Davide. Vabbè, questo qua. Grazie. Questo qua è malato. Va bene. Vabbè, è malato. Ultima dai. Cosa. Ancora, ma ultima cosa, è 20 minuti che è l'ultima cosa. Ultima cosa, fammi parlare. Si deve dai. Sfogare, allora, dai, su, si deve sfogare. L'economista che ha parlato venerdì. Sì. Ok. Mitico. Allora, ragazzi miei, voi intervistate un economista inglese. Luttwak, ma che inglese, americano. Basta, non ne posso più. È vomitevole. Vomitevole. Fa schifo. Lei fa schifo. Allora, ragazzi, uno dei massimi interpreti del pensiero berlusconiano, Giuliano Ferrara, su questa storia del golpe, del complotto di Monti e di Napolitano ai danni di Berlusconi, smonta tutto. Lo sai chi è, caro Parenzo? Chi è? Giuliano Ferrara. Sì, Giuliano Ferrara. Non è una notizia. Senti. E pensai che Napolitano stesse parlando con qualcuno, magari Mario Monti. Lo leggevo anche sul giornale, a Nove Colonne, Monti, tutto te ricordo. Quindi non è una notizia quella del golpe dell'estate del 2011, è una realtà che abbiamo tutti quanti vissuto. Poi dice il golpe è una puttanata. E si sarebbe arrivati a un governo Monti. No, quello sì, pensavano tutti. Ma quello che non si sapeva era che Berlusconi lo avrebbe autorizzato. Infatti io, che sono un ingenuo, radunai al Teatro Dal Verme di Milano, non era il Dal Verme, era il Manzoni, una vasta folla e tutti quanti brandendo dei fucili come i talebani negli stati dicemmo elezioni, autogoverno o morte. Sono passate 48 ore, Berlusconi ha detto va bene, il governo Monti va benissimo, eccetera eccetera, si è fatto il cambio, Monti è stato nominato senatore a vita. Questa è la notizia, questa che vi ho raccontato adesso, non quelle puttanate sul golpe che sentite adesso raccontare da persone che hanno voglia di fare casino. Friedman ha voglia di fare casino, questo dice Ferrara. In realtà Berlusconi appoggiò il governo Monti, nonostante varie pressioni che arrivavano per dire no, basta, è un quello sì, un golpe. Ma guarda diceva che Ferrara non si riferisce a Friedman, gente che ha voglia di fare casino. Quello è che no, si riferisce a Prodi e a De Benedetti. No, non credo. Perché sì, io credo che Prodi e De Benedetti nelle interviste che ha fatto Friedman siano inconsapevoli della struttura del documentario di Friedman. Sicuramente Prodi ha ricevuto un vantaggio in questo caso, che la sua corsa verso il Quirinale è un po' più vabbè adesso perché... Lascia, ma perché devi fare questi discorsi che la gente non capisce un una sega analisi, ma la gente non capisce una sega. Giuseppe ascolta, dalla provincia di Chieti, soltanto quelli che chiamano Giuseppe per dalla provincia di Chieti, mamma mia, guarda Giuseppe ha voglia di capire, di sapere, sì, tutto di capire. A posto? Da te oh, ecco, no, arrivato no, l'altro è arrivato l'altro imbecille, va da Chieti. Chi è dai. Un altro cretino da Chieti. Ma scusi, perché insulta dottor Dino Cruciani? Ma esulto chi esulta? Chi sta esultando? No, insulta. Ma insulta, ma è chiaro che lei adesso attaccherà tutti, Cruciani, Parenzo, Napolitano. No, ma vedi che lei già è prevenuto. Vabbè, avanti, forza, attacchiamo, tu, forza. Allora, io volevo parlare del bolscevico che ci abbiamo come presidente della Repubblica. Eccolo qua, sì, eccolo qua, è arrivato. Sì, sì, sì. E Parenzo invece che è? Ma quello è un pezzo di merda. Ah, sì. Benissimo, questo è l'ascoltatore tipo che piace a Cruciani. Avanti, ascolti, ma lei no, con le tonnellate di male parole, no? Sì. Che dice ogni volta, cioè, a ma che chi? Cosa aspira? Perché chi? Barisoni, ma chi? Barisoni con te è diventato vicepresidente, no? Lei no, vicepresidente di che? Vicepresidente di casa sua, forse? Della trasmissione, dai, Crucia, è inutile che lei fa il saputello, lei rimarrà anche fra 10 anni a dire tonnellate, sì, di male parole con la sua trasmissione, con il, sì, pezzo di merda che c'ha a fianco. Adesso, arrivato, questa è la parente. È arrivato, però l'hai voluti tu questi qui, li hai allevati tu. Senti, quindi amico, ora stai come l'apprendista. Stai tranquillo con queste puttanate, oppure, qui oppure chiudi la radio e te ne vai. Siccome è nervoso? Ma io non sono nervoso per niente, sono proprio... No, quello di prima l'ha innervosito un bel po'. Ma chi? Quello di prima? Ma quello di prima? No, è nervoso. Cioè, ma da quando vediamo che non va a puttane, il cruciale, appunto, no, è un po' nervoso. Non ci sono andato pochissime volte in vita mia. Ah, cioè. non ti è fatto nemmeno una canna stasera? No, non me ne faccio le canne, Giuseppe. Ah, lei invece non è come il suo cocainomane a fianco. Comunque, volevo parlare del cocainomane, quello. Non è cocainomane. No, quello è una nullità che dovrebbe andare a lavorare. Comunque io volevo parlare non della nullità, ma del bolscevico presidente della Repubblica. Ma che ha fatto sto bolscevico adesso? Allora, sa, noi in Italia abbiamo le tre cariche dello Stato. Sì. Allora, il presidente, un bolscevico comunista che sono 60 anni, sì, che uno ha 88 anni, sì, che c'è il pannolone, sì, dovrebbe, gli hanno ritirato la patente, no? Allora, sì, può dire... Va bene, ma io ho una piccola ditta e allora? Faccio cappelle funerarie. Sì, lei fa le cappelle anche funerarie? Con marmi, sì, anche con marmi speciali. Ma d'altra parte, no? Qualche aspetto macabro lei ce l'aveva nella voce? No, ma io lo faccio per gli altri. Cioè lei fa il sostanzialmente, sì, fa, sì, il, sono becchino? Piccola, non faccio il becchino. Cioè, vabbè, il uguale, becchino l'imprenditore del becchinaggio. Della morte. Esatto, cioè, fai i funerali, per carità, ma non c'è, infatti, mica ha detto niente. Però chissà perché fai i funerali. Business intelligente quello, eh. Bravo. Sì, allora... È un settore redditizio. Vabbè, ma che vuole da noi adesso? Tanto la, no, gente vuole sempre. Dire che questo presidente, cioè, sì, se gli serve, se sarà questo presidente bolscevico, sì, comunista DM, sì, certo, sempre glielo faccio gratis una cappella funeraria, ma di quelli, cioè, marmori che... Cioè vuole fare, che... lei vuole fare il coso? Vuole fare la... Tanti che si togli dai coglioni, che sono 60 anni. Bene, adesso vuole... passiamo al presidente del Senato, quello là, chi? Il maiale grasso. Magistrato. Il maiale, sì. Ma lei è malato di mente, scusi. Giuseppe, lei perché lei sceglie la radio per sfogarsi, diciamo la verità. Cioè lei... prende, ma questo qua è un servizio che facciamo alla comunità, un, sì, servizio che facciamo alla grandissima comunità. Ma lo fate il servizio con i soldi anche miei, caro, no, Cruciani, soldi no, i soldi suoi no, i soldi suoi mi dispiace, no, perché qui sbaglia. 10 milioni, quella sera che le ha telefonato quel signore non ha detto niente, l'ha fatto solo parlare. Senta, quel signore. Giuseppe dalla provincia di Chieti che parla di napoletano da fare la bara, eccetera eccetera. Fermo lì. Ho noto su Twitter un Alessandro Meluzzi che abbraccio, buonasera. Buonasera, buonasera. Come andiamo? Va? Benvenuto in questo sfogatoio universale che è la Zanzara. Uno scatenato sul Festival di Sanremo. Allora, scatenato, siccome a noi piacciono. Io sul Festival di Sanremo direi sul fenomeno Faccio e Litizzetto. Su Faccio e Litizzetto. Ma non per faziosità. Non per faziosità politica. Ma per dice. Delle considerazioni di carattere generale, anche per voler fare un piccolo esperimento sociologico. Cioè? Cioè, dimmi Alessandro. Visto che l'onorevole Alessandra Moretti voleva fare una legge contro l'odio in rete, eccetera. Cosa ridicola? Cosa che trovo assolutamente ridicola, perché trovo che semmai ringraziamo Dio che esistono degli sfogatoi innocui. Ma assolutamente, possono depositare la loro indignazione anche anonima nei confronti di cose che succedono. Ma poi che cosa si dovrebbe punire? Orrore. Cosa si dovrebbe punire online? Quelli che urlano e dicono delle parolacce online, che facciamo lì? Allora io oggi ho pensato nella mia mitezza invece, sì, cristiana, di voler fare un piccolo laboratorio antropologico per vedere come le persone reagivano ad una dichiarazione di indignazione nei confronti di due ultranoti e tutto sommato forse anche ultramati. come quello che io ho definito la faccia di gomma Fazio, è l'orrenda Littizzetto. Perché orrenda Littizzetto? Perché? Perché lo voglio usare in senso greco. Lei sa che lei è un uomo colto, lei sa che in Grecia c'era il concetto di kalos kai agathos, bello e buono. L'eroe era bello e anche buono, come Ettore, per esempio. Sì, sì. E invece la Littizzetto? Il cattivo come Tarsita era brutto e cattivo. E qui usavo nei confronti della Littizzetto questa accezione, no? Vabbè, tu hai detto però orrenda, cioè. Orrenda nel senso che significa orrore, ma non tanto per ragioni puramente estetiche, cioè, non credo che ti fa esteticamente ti fa orrore, diciamo. Credo che lei giochi anche sulla sua bruttezza, senza alcuna cosa. Però esteticamente ti fa orrore, diciamola tutta. Ma anche per quello che dice, per la volgarità. Quando la zanzarina. Certo che in queste ultime settimane, caro Parenzo, a Rai News 24 ne accadono davvero di tutti i colori. L'ultima l'ha combinata, tra l'altro, una persona, sì, una persona che conosco. Conosco questa persona da tantissimo tempo. Lorenzo de las Plassas si chiama, origini nobili, giornalista di Rai News 24 da tanti anni, si occupa di cinema. Amici miei, ha mandato in onda parlando del Festival di Berlino la settimana scorsa, ha mandato in onda delle immagini a un'ora che è quella delle 3 di pomeriggio. Dunque, no, certamente non a mezzanotte ormai, comunque. Alle 3 di pomeriggio ha mandato in onda delle immagini che ovviamente per radio non si possono vedere, ma su YouTube ormai questo filmato è diventato praticamente virale. Si vedono immagini di pompini proprio veri, cioè proprio il pompino, cioè non una roba finta, no, vabbè, coperta, no, ti giuro. Così sembra una volgarità, cioè, in ma no, ma non è una volgarità. È il grande film di Lars von Trier. Cioè, certo, ma, capito, ma c'è un pompino però, abbi pazienza. Vabbè, c'è un pompino, sessuale, un cunnilingus e una trombata. Adesso diciamo le cose come stanno. Lars von Trier però. Cioè, ho capito, è... però tu non puoi alle 3 di pomeriggio mandare in onda su Rai News 24, in teoria non puoi, poi sai... Non credo che sia successo niente di grave, non credo che i bambini siano rimasti particolarmente colpiti da questa cosa. Ovviamente ci sono polemiche, bisogna vedere quanti bambini alle 3 sono su Rai News 24 innanzitutto, no? Quanti minorenni sono su Rai News 24. È vero che poi adesso il filmato sta facendo il giro del web. Non vedete le immagini, andate a vederle. Però sentiamo le reazioni dei conduttori e di quello che era Berlino, Las Plassas. Sappiamo che Lars von Trier è un provocatore, vediamo se Alessandro ci fa partire le immagini, eccole qua. Ma immagino che, Lorenzo, che queste siano un po' ripulite perché dicono che è parecchio spinto. Esatto, no, esattamente vediamole. Così. Beh sì, Dolara, stiamo vedendo, ma non sono ripulite, sì, effettivamente, perché devo dire che in questo film, allora, gli interpreti innanzitutto sono Charlotte Gainsbourg, che è l'attrice fetriccia ormai di Lars von Trier, Stellan Skarsgård, Shia LaBeouf. Intanto passavano le immagini, No, effettivamente forse un po' troppo per quest'ora del giorno, Lorenzo. Vabbè, insomma, si vede poco. Sì, no, si vede poco. Chiediamo scusa, ma comunque, il film è molto, molto esplicito. Questo l'abbiamo capito. A un certo punto, quando si vede il pompino in primo piano così, il conduttore dice, non sono proprio immagini ripulite, no? Ma si vede poco! Sai che è stato richiamato da Berlino? Per questo? Sì, sì. Beh, amico mio, però tu non è che puoi mandare immagini, sei responsabile della cosa. Puoi mandare le immagini. Sì, ha sbagliato. Su. Come minimo ritorni da Berlino. Poi, però per carità, lo ha fatto perché conosce, essendo un uomo che conosce il cinema, evidentemente. Ma sì, ho capito, ma non puoi fare vedere alla Rai alle 3 di pomeriggio. Ha sbagliato, le immagini con una. Però che da come lo commentava, Lazio, perché è bello sentirlo per radio, è diverso che vederlo. Comunque che non è la prima volta che succedono dei casini alle News 24 ultimamente, Senti sta roba qua, te la ricordi la Tangherlini, mitica, ancora non è stata reintegrata, Fuori onda, sì. Torniamo subito dopo in diretta su Rai News 24 con gli aggiornamenti delle notizie. Restate con noi. Restateci voi perché io me ne vado, può essere. Mi sono rotta il cazzo. Mitologica Tangherlini che indegnamente ancora non è stata reintegrata. Andrebbe e poi premiata c'è, invece. E poi c'è il top. Poi c'è il top di Servillo. Tutto Rai News 24. Non sento più, guardi, sto entrando in un tunnel. Pronto? Noi la sentiamo. Ci sente? No, basta una culo. Ah, gradina. Si voleva sapere per dire. Ci sente? Sì, trattati così. Va bene, la ringraziamo, grazie a Tony Servillo, non riusciamo. Qui invece c'è da sottolineare che cosa? C'è da sottolineare la grande compostezza, no, della conduttrice, che nonostante sì, si sia presa un bel vaffanculo in diretta, poi in realtà resta molto tranquilla, eccetera. No, l'estrema professionalità, non gli, vabbè, hai detto, ma adesso di che... l'estrema professionalità. Va bene, allora, le solite cose tue, l'estrema professionalità della collega. Ma la collega, io collega è una roba che non, non sopporto, ti consideri, cioè, collega, io, di nessuno. No, ma io quando sento la parola, no, collega, metterei in mano la pistola. Cioè, quando Meluzzi, lei perché cos'è che metterebbe mano alla pistola? Io quando sento la parola, che ne so, cultura. Lei sa, Cruciani, che io voglio morire da cattolico penitente, da liberale penitente, quindi non sono un moralista, però alcune cose mi hanno fatto molto indignare. Prendo, quando ho scoperto che per le quattro serate di Sanremo la licenza guadagnerà più di quello che guadagna Obama in un anno, sì, e un po' mi sono turbato. Ma anche dai, perché quelli non sono, quelli sono soldi, come dire, di poveri pensionati. Ormai la televisione la, no, pagano 10 milioni di pensionati, che sono gli unici che pagano il canone. Tanto che la Rai, per fare lo spot, per pagare il canone, deve far vedere un anziano che sembra Gandalf. Ma sei un uomo di mercato, Meluzzi. Calma, calma. Sei un uomo di mercato Alessandro. Aspetta, no, fai parlare. Dopo che oggi ho lanciato il mio titolo, ho ricevuto una comunicazione che anche questa mi ha molto colpito, perché un insegnante mi ha mandato questa piccola riflessione che vi giro. Allora, Lali Tizzetto guadagnerà in onda a Sanremo 20.000 euro per 10 minuti di messa in onda. Un insegnante per 10 minuti di lavoro guadagna invece 2 euro e mezzo. Allora, questa fa riflettere. Però, scusa, ma certo che fa riflettere, che detta così, ovvio. Guadagni quello che guadagnano 1.000 operai. È troppo. C'è una, ma allora puoi dirlo di un calciatore, puoi dire... In un'Italia a rotoli c'è una situazione eccessiva, e questi sono soldi del canone pagato dai cittadini, dai, ma contribuenti. Col canone non ci paghi neanche un caffè, dai. Cioè, tu dici va bene premiare il genio, l'arte, la nel caso di Fazio di Tizzetto non c'è né genio né arte. Vabbè, quello però è un giudizio personale. Ma certo, la mia opinione, io dico quello che penso io, non posso dire quello che pensano gli altri, però dico che da questo punto di vista basta vedere quegli orrendi spot, quello col braccio finto, quello dove si tirano le torte in faccia. Le torte in faccia, devo dire, le torte in faccia. Uno squallore che non ha limite. Vabbè, le torte in faccia, devo dire, uno squallore al di sotto di ogni sostegno. Non è piaciuto nemmeno a me, non capivo dove volevano arrivare, po' brutto quello spot. Ma poi di una banalità, di una fesseria, di una assoluta stupidità. Ma che, insomma, allora, capito? Io non ho capito qual è il punto, secondo te. Cioè, il punto è che c'è un'offesa agli italiani, perché con i soldi nostri, pagano per con pochi... Con i soldi nostri vengono strapagati, come dire, due soggetti che sono tra l'altro piuttosto inflazionati anche, che mi pare che dal punto di vista della creatività, della comunicazione televisiva, dell'intelligenza... E perché conducono Sanremo, secondo te, che c'è anche qua un complotto come Berlusconi? Ma io non sono un complottista, che mi frega, chiedetelo... Hanno buone entrature... Chiedetelo a, non so, quelli della Rai... Non... Ma a te la Tizzetto non ti fa ridere? Ma neanche un po', mi fa piuttosto piangere, devo dire, che piuttosto che... Ma perché dici che è volgare? La satira comunque è feroce. Ma non c'è, ma la satira, c'è un'esibizione un po' sgangherata di male parole, di scurrilità, che sulle bocche di una donna che pensa di farsele perdonare, perché sembra una vecchia bambina, perché l'archetipo della Tizzetto è quello di sembrare una vecchia anche bambina, no? E quindi la gente a questo archetipo tende, come dire, a perdonare. Vabbè, ma è la sua cifra, quella. Però c'è tutto un senso, di tutto un senso. Cioè, quando lei dice, fa le allusioni sessuali. Parliamo con le cifre, con tanti giovani comici brillanti che fanno la fame, che potrebbero fare mille volte meglio quella parte, pensare che ci siano questi vecchi arnesi del mondo della televisione politicizzata che vanno in giro ancora guadagnando queste cifre, è una cosa che un po' mi turba. E Fazio quant'è che guadagna, Fazio? Mi pare come 1.000 operai in un anno, no? Perché guadagna, pare che abbia fatto un contratto, no, di per Sanremo, milioni di euro. Per Sanremo, non so, alcune decine di... Ti sono amico, ma Meluzzi, non ti sei mai indignato gli stessi discorsi in passato? Non li hai mai fatti, no, per altre centinaia di casi politici nominati e mandati in Parlamento, potrei, perché potrei amici del capo, della corruzione, delle altre starlette? Non hai mai detto nulla di tutto questo, mai nulla di tutto questo. Lo sai che la Licizzetti in quattro serate di Sanremo guadagnerà come 3 senatori? Magari è meglio, forse è meglio. Forse 3 senatori che lavorano un anno fanno più danni della Licizzetti, può darsi. Però non sono ancora arrivato a questo punto di qualunquismo nei confronti della democrazia. Ma chi c'è? Ma anche un calciatore guadagna più di 4 senatori. Però lo sai qual è la risposta, Alessandro, a queste cose qua? Allora io trovo che a queste osservazioni... ha talmente le pezze al culo che queste cose fanno un po' indignare. E alla fine questa cosa verrà in qualche modo pagata, inevitabilmente. Perché tutte le cose, quando diventano un eccesso, diventano un eccesso. Questi cachet, cioè, il tuo è un argomento facile che troverà applausi tra la gente, è evidente, però moltissime che li guadagnano. Cioè, meglio giovani che guadagnano un terzo, ma che prenderebbero un terzo, un decimo, ma c'è gente che lo farebbe per un centesimo leccandosi i baffi. capite? Mentre invece non si capisce di questa rendita di posizione del tutto inspiegabile. Beh, bisogna vedere. Oggi, su Twitter, ho ricevuto una valanga di attacchi, anche di che dice, ma lei quanto guadagna? Io sai, quando ci vado? Sapete che mi dico? Ci vado gratis. Ah, non è come Crepe che perché si lamenta. No, io non guadagno neanche 700 euro di prego quando vado in Rai. Vado gratis perché è il servizio pubblico, perché mi piace. Perché da Mediaset ho la libertà di dire la mia. A Mediaset a quarto grado guadagno 500 euro lordi a puntata. 500 euro lordi a puntata. Senza neanche il rimborso. Poco? Perché mi piace, poco. Perché mi diverto. Perché mi diverto. Posso, è un mio hobby. Io non pago neanche i soldi del gasolio per andare tra Torino e Milano, però mi diverto. Anzi, grazie di invitarmi perché è un divertimento. Quindi capite, da questo punto di vista sono inattaccabile, posso dire quello che voglio, ma che certo, sono un uomo libero, anche da questo punto di vista, perché capo del mio, sono un povero medico di campagna. Ciao, presto Alessandro. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. È ancora a casa. Una piccola zanzara. Le ricette per l'Italia del professor Edward Luttwak. Sigla. Tu sei come una piccola zanzara. Oh, well, noi pensa che il grave problema italiano si chiama Vittorio Agnoletto. Ma che c'entra Agnoletto? Questo comunista che vuole togliere tutto agli imprenditori. Sentite cosa dice: se voti Berlusconi significa che non hai morale, non senti la puzza. Se tu voti Berlusconi, che è un diritto di ogni cittadino, vuol dire che non c'è nessuna forma di disonestà che ti causa problemi. È come non avere la capacità di sentire la puzza. Entri in un posto puzzolente e non senti la puzza. In America, come minimo, Berlusconi si era beccato 5 anni di galera. In America, Berlusconi, frode fiscale, minimo 5 anni di prigione nella cellula, e viene arrestato dopo il processo. Gli danno il tempo per mettere le cose a posto e lui sarebbe in prigione per 5 anni. Poi dice, come basta con questa storia che è vecchio, che non può andare in prigione? Ha una fidanzata di 27-28 anni, e allora di che stiamo parlando? Può andare tranquillamente in prigione. Questa storia di non mettere gente in prigione quando hanno più di 70 anni è ridicolo. La gente oggi, i 70 anni fanno il paracadutismo, e Berlusconi dice perlomeno di avere fidanzati a 75 anni, quindi assolutamente dovrebbe andare in prigione dietro le spalle. Il professor Edward Luttwak. Va bene, Giovanni da Brescia. Ciao. Dimmi. No, niente, volevo dire come solo niente. Due cose, voglio parlare poco perché ho paura che mi riconosco. Niente, il problema è che io ho sentito parlare sempre di questi gay e ho voluto provare. Cioè, non ho capito, lei ha sentito parlare dei gay alla Zanzara e ha voluto provare? Sì, ho voluto provare, e premetto che ho una famiglia. Ho voluto provare e basta. Il problema è che adesso che ho provato mi è piaciuto. E quindi. Ma cosa adesso... ha provato, scusi, di grazia? Ho provato piacere andare con un uomo. Sì, ma quindi... che tipo di rapporto ha avuto? Completo? Completo. E completo. Quindi adesso, ma attivo o passivo? Fare? Vabbè, adesso. Ha avuto sia il passivo che l'attivo. Cioè, tutto ha fatto. Tutto. No, la cosa curiosa è che l'ha avuto dopo aver sentito la trasmissione. Però scusi Giovanni, adesso noi dovremmo credere a questa cosa? Lei ci sta chiamando dicendo io un ho po' sentito... ci onora anche tutto sommato. Ci onora, a me che me frega. Non è che io le sto dicendo che mi deve credere, l'unica cosa che le sto dicendo è che adesso è diventato un grande problema familiare per me come affrontare questo discorso a casa, perché giustamente sposato con figli, come si fa? Il problema è... Ma ho capito, ne ha parlato con sua moglie oppure si è limitato a fare sesso selvaggio? No. No, no, non ne ho parlato. Ma adesso la riconosce alla radio, Giovanni, di che parliamo? Scusi, perché lei mi sta dando la dimostrazione che vuole coglionarmi, perché se lei chiama pubblicamente senza nascondere la voce dicendo sono andato con i gay, adesso è un problema di famiglia, io non ci credo. Io non mi riconosce perché mia moglie non ascolta questa radio, e poi tra l'altro io ho detto già anche prima che voglio parlare poco, era solo per esprimermi la mia, purtroppo adesso, disgrazia che mi è successo. Perché ma perché disgrazia? Perché disgrazia? Ma scusi, lei come ha fatto a provare? Che fa, il camionista? No, io non faccio il camionista, faccio il rappresentante, e sentendo parlare di voi, di questa cosa, curiosito, una sera mi sono fermato. Dove? Alle piazzole? In un'area di parcheggio, e da lì, porca miseria, è scaturato il tutto. Premetto che è stato solo una volta, però lo rifarei anche subito. Lei è piaciuto, eh? Lei è piaciuto. Sì. Lei è piaciuto. Cosa le è piaciuto? In particolare, che le è piaciuto? Scusi, no, senti. No, non mi faccia chiudere. La ringrazio. Vabbè, Giovanni, io però un po' non ci credo, devo dire la verità. Cosa le posso dire? Lo so, io, sì, un po' non ci credo. Cioè, lei mi ci viene a chiamare dicendo sono stato incuriosito, mi sono incuriosito, mi sono fermato in un'area di parcheggio, è arrivato uno, abbiamo fatto tutto, rapporto completo, passivo, attivo, fellazio, fellazio pure, fellazio. Mi dispiace, devo chiudere. Fellazio? Mi dispiace. La fellazio c'è stato o no? C'ho una borsa con sulla foto, e ci tengo molto perché la tengo come una reliquia. C'ho la foto di Parenzo su. Oh, c'è un altro David, provincia di Siena. Di Siena, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Senta, io volevo fare volevo dire una cosa di Sallusti. Cioè, volevo commentare l'intervento di Sallusti che ha fatto prima. Cioè, io l'unica cosa, chiedono l'impeachment, scusi, sto facendo un garage. Cioè, l'impeachment per Napolitano, va bene. Io volevo capire una cosa. Ma lei dove si trova in provincia di... Scusi, in provincia, provincia di... provincia di Siena? Ma Siena dove? Sinalunga. Paese di Rosi Bindi, se non sbaglio. Esatto. Sì, sono un paesano di Rosi Bindi, sì. Allora? Anche se, comunque niente, volevo capire una cosa. Ma se una persona, faccio un esempio, 10 condanne, minimo, ma cioè com'è possibile che non sia colpevole all'interno di una cosa? No, non ho capito, scusi, Davide, si spieghi meglio però, perché altrimenti non capisco. Cioè dicono Berlusconi hanno chiesto l'impeachment per Napolitano. Ma sì, in realtà Berlusconi non è che ha chiesto l'impeachment ancora, però insomma... No, comunque stanno chiedendo l'impeachment insieme al Movimento 5 Stelle. Sì, allora... E ognuno sa come gli pare nella vita. Ma l'unica cosa è che se Berlusconi non veniva levato dalle scatole in quel momento, no, quest'ora se l'ha fatta finire. Perché non è inutile continuare a difendere l'indifendibile, ha capito? Ma chi sta difendendo l'indifendibile? Scusa. Sallusti. Ma Sallusti, ma lei lo sa dove lavora Sallusti? Sì, lo so, a parte lo so, che al di là del fatto che lavora là, avrà pure una sua opinione. Sì, ma è un'opinione che hanno. Cioè, proprio sì. Cioè, lei pensa che Sallusti sia solo un ladro, sia solo uno schiavo, un servo, perché prende i soldi da Berlusconi? Sì, allora... sì, alla grande, poi oltretutto con chi ha sponchi sta in casa. Vabbè, ma che c'entra? Che c'entra, scusi? No, non c'entra, però volevo dire... Cioè, perché siccome è fidanzato con la Santanchè è un porco? No, però continuano a difendere Berlusconi, che su 10 condanne... Cioè, per 10 non c'è arrivato a 10 condanne. Non è colpevole. Ma non è arrivato a 10 condanne ancora, le voglio segnalare. No, esempio, io ho fatto c'è una definitiva. Mi dai un esempio. Ecco, se una persona viene condannata su 10 volte, ma secondo lei è possibile che almeno di una non sia colpevole? Ma che ne so io, ma questo non è che siamo al mercato, non è che siamo al mercato del, del... Sì, no, no, lo so che non siamo al mercato. E allora? Sì, però non, cioè, la ritengo una cosa che non so. Un attimo, fammi sentire Esther, che dopo abbiamo un ospite. Esther, provincia di Milano. Sto. Eccoci, Esther. Buonasera. Dimmi, cara. Senta, io sento sempre la sua trasmissione. Stasera ha invitato due personaggi che sono... qualcosa di straordinario. Vabbè. E le dico a un certo professore di andare a curarsi le emorroidi. Il professor Becchi, ecco, dice lei. Perché tutte le cavolate che vogliono fare cadono sulla pelle dei cittadini. Ma che vuol dire? Scusa, le dica, ecco, le dica di curarsi là dove le ho detto. Sì, ma scusi, che c'entrano le emorroidi? Parlare di quelle persone che fanno andare giù le braccia. Ecco, è meglio che invito la gente un po' più seria. Più seria. Buonasera. Buonasera, Esther, buonasera. Vabbè. There must be. Allora, caro Parenzo, ti ho tirato per i capelli su da Strasburgo, nostro amico. Beh, stasera farei una grande battaglia con lui, secondo me. È una grandissima battaglia. Ti ricordi le battaglie che facciamo a Strasburgo? Beh, ma le abbiamo fatte con tanti. Con tanti personaggi, professor. Beh, Gatti, però ce n'è uno. Ce n'è uno in particolare. Con... Ce n'è uno in particolare con cui battagliavi su Berlusconi. Battagliavi su un euro parlamentare. Con un amico pugliese, il signor Silvestris. Eccolo fatte... qua! No! Sergio Silvestris, buonasera. Buonasera. Silvestris. Mi sento informissima e soprattutto volevo complimentarmi con chi? Per la selva di radioascoltatori che avete messo in collegamento stasera, veramente una somma di scienziati, non so come avete fatto. Vabbè, adesso non si bravo, consideri senso. Troppo superiore agli ascoltatori che hanno chiamato. Assolutamente sì, no, voglio confronto Churchill, quadro. Diciamo. Allora, però, io voglio capire una cosa. Parenzo, tu te lo ricordi Silvestris, no? Ma tu stai scherzando. Uno ex AN, certo. Innanzitutto, come dire... È genuino Silvestris, io non sono d'accordo neanche sul suo cognome. Perché? Perché non sei d'accordo sul cognome? No, scherzo, non condivido nulla, no, faccio per dire. Ma perché non condividi nulla? Perché gli voglio bene, ma sono dall'altra parte del mondo. Dall'altra parte del mondo diverse. Che vuol dire? Lui è un cose, abbiamo visioni diverse delle cose, ma per sua fortuna è un Gasparriano, adesso questo. È bene, un Gasparriano. Uno, vabbè, perché uno non può essere con Gasparri, certo. Non ho capito, che ha fatto di male qualcosa, è un criminale. Con Cruciani, figuriamoci se lui non può essere questo con Gasparri. Pure è vero. Allora, però Silvestris, devi sapere che è uno cresciuto nel movimento sociale italiano quando era giovane. Adesso come fa a ritrovarsi con Forza Italia Silvestris, però lei proprio per comodità, per paraculismo, diciamo la verità, stai con Forza Italia perché altrimenti non è che puoi andare con Fratelli d'Italia e qui non si batte chiodo, no? No, ieri ho ricordato a Bari Pinuccio Tattarella, che è stato il mio maestro. Sì. L'abbiamo fatto in un bellissimo convegno, era l'anniversario della sua scomparsa. Che c'entra da la sua lezione è stata questa, quella di credere in un grande partito del centrodestra e di non scegliere le vie della diaspora e della frammentazione. Quindi una coerenza anche nella scelta assolutamente convinta di stare in Forza Italia. Forza Italia, ma al solo pronunciare questa cosa, tu diventavi pazzo secondo me nel 94, Forza Italia. No, io ho fatto la prima campagna elettorale, la seconda, quella delle politiche del 94, e eravamo nel polo delle libertà con Forza Italia, io ero in AN. Senti, Sergio, ma come si dice napolitano vai a casa in pugliese? Come si può dire? Beh, in mille modi, perché la Puglia è grande, quindi dal Salento alla Daunia. Abisceglie, come si direbbe? Ma non è che lo dici tu, però facci capire come si direbbe. Napoletano. Abisceglie direbbero, ma non lo dico io, Tenesiace. Per carità, come si dice? Tenesiace. Tenesiace. Tenesindace, ma non è quello che io penso. Sì, vabbè, d'accordo. Tenesindace. Come Tenesindace. Napoletano. Voi due siete stati Abisceglie. Ma che vuol dire Tenesindace? Certo. Quindi il dialetto dovresti averlo anche ma no, un po'. Ma non queste slang noi. Tenesindace, cioè te ne devi andare. Sì, questa è la traduzione del pensiero che voi avete espresso. Napolitano Tenesindace. Il vostro pensiero, non si capisce il nostro, io non so, anzi io non ho detto niente, per me deve restare là. Hai detto tu Napolitano Tenesindace. No, io sono tradotto. Ma ha fatto sto golpe o no Napolitano? A Bruxelles dove sei? A Strasburgo oggi dove sei? Si sente aria di golpe? Io sono a Bruxelles. L'aria che si sente, l'aria di un paese che è quello che una certa Europa vuole, ha sovranità limitata, e queste dinamiche, questi chiacchiericci, questi golpe veri, non veri, denuncia, perché poi ce li autodenunciamo noi italiani, no? Ma l'ha fatto sto colpo o no Napolitano secondo te nell'estate? Io leggerò con attenzione il libro. Il dato è uno su un episodio che sarebbe avvenuto, diciamo, nell'estate del 2011. Ci sono due persone che la contano diversamente. Cioè? Uno è il Presidente della Repubblica, l'altro è Monti. E voglio dire, bisogna capire chi stia dicendo la bugia. Io mi auguro da italiano. Monti ha detto semplicemente che ha avuto dei contatti, lì si era prospettata anche questa possibilità. Non è che ha detto che gli ha offerto la presidenza del Consiglio tra qualche mese dopo. Ha detto se la cosa. Napolitano invece ha detto che nel contattare Monti non ha fatto nulla di questo. E ha bollato anche nella sua nota. Ora c'è qualcuno che mi manda gli sms, non so se anche a te. Come fuoco, come fuoco le cose che si dicono. Aspetta un attimo Silvestri, ci sono delle novità importanti. Renzi al Quirinale, questo mi dicono, questo mi comunicano qualcuno di cui non ho il numero memorizzato, però anzi sì, io se accendo il cellulare poi mi dici perché c'è i messaggini che arrivano, capito? Renzi al Quirinale, leggete Dago Spia, leggete Dago Spia, forse c'è Dago Spia, io sono distratto un attimo, oggi sono pure malato, un attimo fammi vedere una cosa. Dago Spia, già sai tutto tu, perché non c'è informato? No, non è che so tutto, però sai, complotto chiama no, complotto. Ma che qualcuno stasera cominciava a twittare delle cose tipo staffetta eccetera eccetera, ma Dago Spia non c'è scritto niente, ma però al di là di staffetta o non staffetta, chi oggi vuole, diciamo, mandare a casa questo governo e sostituirlo con un altro. Ma tu, a te ti piacerebbe un governo Renzi? Ma assolutamente no, non mi piace quello Letta, non mi piacerebbe quello Renzi con l'appoggio esterno di Forza Italia. Ma io penso che la via maestra siano le elezioni. La via maestra alle elezioni, vabbè, assolutamente questo... sì. Ma Berlusconi non vuole votare, non è pronto. Partendo da un dato che è quello su cui tutti gli italiani oramai sono d'accordo, che questo governo è un fallimento. Vabbè, maestro, non ci fare pippone, però. O Renzi o rimpasto o elezioni dicono che questo governo non va bene. Ma che facevate voi se stavate al governo? Da novembre, ma se stavate al governo, non facevate tutta l'Italia. Ma novembre sono passati 3 mesi, voi non avreste fatto nulla lo stesso, perché l'Italia è un paese irriformabile, bloccato. Manco Renzi ci riesce, hanno detto bisogna riformare il Senato e poi adesso dicono però è complicato. Ma che ci vuole complicato? Se tutti sono d'accordo, fai una riga, il Senato è soppresso, punto. Si vota ognuno la mattina, dai, su Sergio, alzandosi. Com'è in pugliese? Com'è in pugliese? Napolitano? Ma com'è in pugliese? Ma non è che posso fare la traduzione in pugliese. Napolitano, vai a casa, dimmi un po' in pugliese. No, non lo dico più perché poi ma voi, non te l'attribuisco. Sostenete che sia il No. Come siamo capito che non lo pensi? Non lo pensi, anche se poi lo pensi. Anzi, la notizia interessante è questa, che tu sostieni Napolitano. Questo mi vede interessante. Al di là di tutto, io penso. Cioè, deve rimanere invece. Deve rimanere Napolitano. Dopo lo dico anche in pugliese. Però io penso che se agli italiani vengono meno dei fondamentali, che tra i quali c'è la fiducia nel Presidente della Repubblica. Oh, tu hai fiducia ancora nel Presidente della Repubblica? Vedi? Io ritengo che noi dobbiamo rispettare le istituzioni. Mamma mia, Borsa, non ne posso più di questa. Come si fa a venire uno e dice bisogna rispettare le istituzioni? Cioè io ti ammazzo, ti voglio ammazzare. Sergio Silvestri, ti voglio ammazzare. Quando sento Parenzo giro su Radio Maria, glielo giuro. Adesso non esageriamo, su, dai. Parenzo che si sta dirigendo verso gli studi di Quinta Colonna da Signor De Debbio. Stefano da Torino, buonasera Stefano. Cruciani, io l'ho beccata, ho capito cosa fa lei, Cruciani. Che faccio? Lei fa le marchette al Malox. Sì, ma quale Malox? Ma è così, ma lei mi spieghi allora come fa? Se non è questa la ragione, lei perché invita Sallusti? Per farmi venire a mal di stomaco, io anche stasera mi dovrò fare una scatola di Malox. Cioè, va bene che divertite, no? Quello là dice quando arriviamo a Mendrisio dobbiamo scompisciarci. È vero, la zanzara è questo. Ma Sallusti, viva Dio, Sallusti non è più divertente, Sallusti è il Malox. Cioè, Sallusti è uno che viene a dire adesso cade dal pero, fa l'innocente, dice forse c'è stato questo golpe. Ma perché Berlusconi non lo sapeva? Berlusconi era ignaro di tutto, ma dobbiamo andare avanti a dire stronzate. Io credo che sia finita l'epoca per gente come Sallusti, che pensa di poter reiterare questo principio che si dicano stronzate all'infinito, tanto va tutto bene. Non va più tutto bene. Berlusconi sapeva perfettamente, è salito, come diceva quell'ascoltatore o chi cacchio era, dice non sei di me, non è stato sfiduciato. Ma chi doveva sfiduciare il Parlamento che ha votato a non so quanti voti che lui era intervenuto, perché quella era la nipote di Mubarak? Era quello il Parlamento che lo doveva sfiduciare? Vabbè, ci siamo infilati in un cul-de-sac. Il problema che il governo Berlusconi sia caduto senza un voto di sfiducia da parte del Parlamento è vero, però si è dimesso Berlusconi, non è che mi sono dimesso io. Cioè, infatti, fu Berlusconi a dimettersi. Subito dopo che cosa ha fatto? Ha appoggiato Monti, perché c'è Monti, è una risorsa per l'Italia. Ma mi ricordo benissimo che nei primi mesi, tra l'altro, Berlusconi era un grande fan di Monti. Scusi, cosa faceva Sallusti all'epoca? Il giornale che lui, tra l'altro, citiamolo questa cosa, ha ereditato per vie traverse da Montanelli. Vabbè, questo che c'entra adesso, roba vecchia. Ma no, ma perché è uno sputo sulla cultura italiana. Ma è roba vecchia, dai, su, roba vecchia. Ma come roba vecchia? Ma allora non invitiamolo più, perché se è roba vecchia... Ma che c'entra? Ma no, è roba vecchia questa cosa di Montanelli, dico io. Poi mi devo togliere uno sfizio personale, io devo capire, no? Sallusti è un uomo, no, di un certo... sposato con una donna, ma quella fa Garnero di cognome, giusto? Sì. Ma che c'entra? Ma no, ma c'entra, Renzo, ma parla più forte, cosa, se no non si sente una sega, questa presa per il culo. Ma perché la chiamiamo Santa anche? La chiamate Santa? Vabbè, ma l'abbiamo sciolta questa Come perché? questo dubbio. Il primo marito si chiamava Santanchè, lei ha voluto mantenere il nome del primo marito, il marito gli ha concesso questa cosa, le ha concesso, come fanno in tanti del resto, punto e basta, cioè non c'è niente di strano, cioè, le sembrava più, come dire, più accettabile, non voleva perdere il modo in cui era stata chiamata fino a quel momento. Si chiama Santanchè, ma saranno cazzi suoi o no? Ma il problema della Santanchè è che si chiama Santanchè di cognome, scusi. No, ma questa è la questione, è proprio una questione classica, no? Di come classica, tra l'altro, è una parola che casca a fagiolo quando uno parla della signora Garnero, no? Cioè, dobbiamo continuare a prenderci per il culo. La signora si chiama Santanchè. Vabbè, ho capito, ma questo non sarà un problema. Ha scritto una serie di cazzate rispetto al fatto che Berlusconi era un supporter di Monti e ha fatto ma la questione politica la sapevano tutti, c'era da passare un periodo che abbiamo passato con l'inserimento dell'IMU che aveva già votato Berlusconi. Vabbè, ma ho capito. E Monti serviva a Berlusconi a essere individuato poi nella mente degli italiani come quello che aveva messo le tasse, infatti guardi adesso il consenso di Monti e guardi il consenso di Berlusconi. Vabbè, voglio capire da Silvestris, siccome Renzi è confermato al Quirinale, ma lei è così sicuro che Forza Italia non fa un appoggio esterno per chiudere le riforme con Renzi? Secondo me è possibile sta roba, eh? ritengo di no. E poi su quello che come ho si dice napolitano, come si dice, quello no? Che state discutendo stasera, due riflessioni velocissime. No, ma come si chiama come si dice napolitano vattene in becca? No, basta, non lo dai, in pugliese, dai. Il 25 luglio del 2011 Sallusti, tanto vituperato da alcuni ascoltatori, già scriveva esattamente sul giornale quello che sarebbe accaduto. Vabbè, qualche mese adesso pure veggente, dai, su. No, vabbè, guardate, prendetevi la prima pagina basta su internet, la prima pagina del giornale poi? Del 2011, la trappola dei banchieri, dei benedetti, vabbè, si Patroli, difende Sallusti, sponsorizzano un governo Monti e poi complotto chiama complotto, insomma c'è chi oggi vuole accelerare la salita di Renzi al Quirinale, a Palazzo Chigi, c'è chi è rimasto male di non essere eletto, di essere stato eletto Presidente della Repubblica 10 mesi fa e che oggi spara contro Napolitano. Insomma, ma chi spara contro Napolitano? Complotto contro. Beh, chi è che ha raccontato di questo presunto complotto? Quindi complotto chiama Monti, complotto. Monti, no, Monti. Ma con lui no, Monti, no, Monti ne sarebbe ma chi? Il protagonista. Friedman, chi? Ma l'ha raccontato Friedman riportando dichiarazioni di De Benedetti e di Prodi. Vabbè, ma questo è siamo al complottismo puro. Ciao Sergio, no, a presto. Complotto chiama complotto. Ma ti sei mai ragazzi fatto una canna in Puglia o no? Ti sei mai fatto una no, bella canna? No, non ho mai fatto una canna né in Puglia. Ma come no? Ma figurati. Le droghe leggere e pesanti. Ma secondo me sei pure andato a Mignotte qualche volta. No, neanche. Ma come no? Figure là, Strasburgo è vicinissimo alla Germania con tutti i bordelli che ci sono. Sono fedele a mia moglie che in questi anni è stata bravissima nel non far sentire troppo la mia assenza ai miei figli. Le voglio un gran bene e quindi sono felice. Cioè così. Tu sei mi vuoi dire che sei monogamo? Ma conosci pure mia moglie, quindi. Vabbè, ma che c'entra che conosco mia moglie? Mica ti seguo la notte. Ma un sacco di gente va lì in Germania, i bordelli che ci sono in Germania, Strasburgo. È pieno là. Ciao, ciao. Ti ciao. Vedo esperto sul tema. Assolutamente sì, assolutamente. Non ho mai avuto il tempo. Se vuoi una guida, non ho mai. Non ho mai. Secondo me, sai dove stanno. Comunque, ma io stai a parlare, ogni volta che sono venuto a Strasburgo pensavo di andarci, poi non ho avuto mai tempo perché la sera uscire da là è un casino, andare in Germania, eccetera. Ciao Sergio, a presto. Ciao. Abbracci. Ciao. Allora, andiamo a Tommaso, provincia di Chieti. Intanto Renzi da Napolitano, si muove qualcosa, vedremo, chi se ne frega poi alla fine. Facessero sta staffetta e non ci rompessero più le scatole con queste cose, dai. Secondo me Renzi fa un errore pazzesco, se accetta questa roba, un errore capitale, però... Dovremmo chiedere il voto subito. No, ma questo poi sta parla, non si sente niente con la macchina, dice banalità colossali, dovrebbe chiedere il voto subito. Ma che vuol dire? Tommaso, provincia di Chieti, mamma mia. Tommaso, dai, forza, devo sopportare pronto? Qualsiasi senta, cosa. Io vorrei l'indirizzo di quel Giuseppe che ha chiamato poc'anzi dalla provincia di Chieti. Perché? Perché lo vorrei conoscere, perché mi sembra che ha trattato un po' male il nostro Presidente della Repubblica, non mi sembra corretto. E vabbè, che indirizzo vuole? L'indirizzo e il numero di telefono. Aspetta, resti lì, che la faccio parlare in diretta con questo qua, con Giuseppe da provincia di Chieti. Però appena risponde al telefono, sì, benissimo, rispondi, benissimo. Un attimo solo, Claudio da Milano. Claudio. Sì, pronto. Dimmi. Sì, ciao, senti, volevo parlare di venerdì, delle storie delle droghe leggere. Dimmi, dai. Niente, volevo dirti che praticamente sono favorevole. Tranquillamente, 40 anni che ne faccio uso, non ho problemi. Cioè, 40 anni che ti fai le canne? niente, non ho mai avuto nei problemi di tossicodipendente, nei problemi in famiglia, nessun tipo di problema, anzi. E magari un po' dipendente dalle droghe leggere, no, lo sarai, no? No, zero. Non esiste la dipendenza. Io domani posso smettere, come posso cominciare fra una settimana. La dipendenza non esiste. La dipendenza non è questa. Sono più dipendente dalle sigarette che dalle canne, per farti un esempio. Sono molto più dipendente dalle sigarette, tanto è vero che adesso sto cercando di smettere di fumare, sono arrivato a 5 sigarette, ma non riesco ancora a mollarle, nonostante tutto. È un casino. L'unica cosa che volevo dire, Giovanardi, con tutte queste storie qua, tanto che poi la droga la vendono a destra, la vendono a sinistra, come le sigarette, le vendono in tabaccai, l'alcol lo vendono in bar, è stato legalizzato sia le sigarette sia l'alcol, lo Stato prende la tassa, chi vuole bere bere, chi vuole fumare fuma, ma dove cazzo sta il problema? No? Sì, a me lo dice. La voce è un po' alterata, di questo. Quante se ne fate oggi di canne, Claudio? Oggi 4. 4, vabbè, però è un po' 4. Esagerato, 4. Ma va, 4, ma io piccoline, tranquillo. Ma 4 piccoline, sempre 4 canne. Sono 4 leggerine, ma sono cose piccoline. Ma io ho capito, ti 4. Bene, ti fanno appena appena un piccolo piacere, credimi, Giuseppe. Oggi no, ma io non le conosco benissimo, non è che sto parlando tanto per parlare. No, ma lo capisco, ma infatti non sono contrario, però insomma 4 al giorno mi sembra che lei li dà giù, eh. Giorgio da Roma, Giorgio. Eccomi qua. Dimmi. Dai, dimmi. Sì, anch'io come il collega Claudio. Quale collega? Collega di questo che? Quello prima di me che fuma con le due canne. Ma che è un collega adesso, quelli che fumano le canne, che sono colleghi tra di loro, cioè, non so. Siamo arrivati alla follia. Il collega di prima. Devo dire che io poi non ne fumo più le canne, perché di punto non mi piace più, è una cosa che mi ha annoiato, che non mi diverte, non trovo più soddisfazione. Però devo dire che comunque ho fumato per 15 anni e non ho mai avuto problemi a studiare, ad apprendere, a ricordare, e così tanti altri miei amici e conoscenti che fumano, hanno fumato, non hanno nessun tipo di problema di questo va tipo. Va bene, Daniele Vicenza. Daniele Vicenza. Buonasera, signor Cruciani. Dimmi. Ecco, allora volevo dire questo. Io sono un ex ascoltatore della Zanzara. Sì, questa sera infatti sta chiamando. Sì. Per vedere se era se cambiava tono. Sì. Invece ho sentito che è sempre la trasmissione pornofonica. Pornofonica, questa non è male. Pornofonica. Ma scusi, che pornografia abbiamo messo? No, probabilmente l'ho acceso un momento sbagliato, c'era ossidità, nefandezza, volgarità, irreverenza, sì. Cioè, una cosa ripugnante. Ripugnante, però addirittura. Io non mi meraviglio tanto di lei, neanche sì. Di signor Parenzo. Ma perché, dell'azienda, la solita storia, avanti. No, perché non vi stimo. Mi meraviglio piuttosto del direttore che permette queste nefandezze. Nefandezze è buonissima, la parola nefandezze. Nefandezze. Grazie. Prego, buonasera. Daniele, prego. Buonasera. Zanzara! C'è una zanzara tigre dentro il mio giardino. Ruggisce tutta la notte. Luciana, Roma. Buonasera. Eccoci. Senti. Allora, lo psichiatra di cui ora non mi ricordo nemmeno il nome, sono Meluzzi. Sì, Meluzzi, no? Che si lamentava perché la Littizzetta guadagna troppo. La Littizzetta no, guadagna troppo a Sanremo, Sanremo. Ma la Littizzetta va a entrare i soldi a Sanremo. Lui che soldi faceva entrare quando andava a reggere i moccoli a Berlusconi in tutte le trasmissioni, stava dappertutto. Quanti soldi ha guadagnato lui quel periodo? Bah, non lo so, non credo che abbia guadagnato soldi per andare in televisione. Era stato eletto, credo, nel 94 deputato. Sì, ho capito, ma stava sempre in televisione. In tutte le televisioni private, pubbliche, e lì prendeva dei soldi, non è che ci andava grazie. Lui ha detto un'altra cosa, ha detto che si potrebbero scegliere altre persone perché bisogna dare spazio ad altri, che è una vergogna che guadagnino così tanti soldi. Ma se quella piace, ma non ho capito, lo decide lui chi piace e chi non piace. Sì, no, ma perché? Cosa fa entrare i soldi alla RAI? Magari c'è un'altra persona, la RAI prende pochi soldi, quindi è una questione pure di quattrini, insomma. Io secondo me a lui è antipatica perché diciamo che è leggermente di sinistra, quindi gli dà fastidio, no? Ah, dice lei, dice che è per questo. Certo che è per questo. che lui decide chi è simpatico e chi non è simpatico. Se lo pagano, evidentemente i soldi li fa entrare, perché lei lo sa benissimo, Giuliani, che ci sono andati a Sanremo personaggi che sono stati pagati delle cifre astronomiche, soltanto per una comparsata. Quindi a me invece sembra una persona simpatica, sì, può piacere o non piacere, però alla fine il suo lavoro lo sa fare bene. E porta i soldi, dice lei, porta i soldi. Vabbè. E porta i soldi alla RAI, certo che li porta. Va bene, Luciana, grazie. Lui dice che potrebbero portarli anche altri, questo era il ragionamento, ma andiamo a Verona da Mimmo. Grazie. Intanto Renzi è sempre al Quirinale. Eccomi qua. Vai. Una sola preghiera, Cruciani. Sì. Capisco che è stata sdoganata ormai la parola, però sentir parlare solo di pompini alla radio. Ma non è vero, adesso questa roba qua, ma non è vero. Cioè, non... Ma è vero, continuate a parlare di questo. Cioè, io entro in macchina, fatalità, con mia figlia, sì, e sento parlare di pompini da Cruciani, ma cazzo, basta! Però scusami, io Mimmo, capisco che hanno sdoganato la parola. Ho capito, però ma se in televisione in prima serata la signora Moretti ha detto questa cosa dei 5 Stelle, è stato un episodio. Ho capito, ma qui c'è un altro episodio adesso, l'episodio della RAI che ha mandato in onda alle 3 di pomeriggio delle immagini con quello che ha detto lei prima, con una fallazio. Più se ne parla. Beh, in realtà c'è un ragionamento diverso che è stato fatto l'altro giorno, non mi ricordo da chi, che stasera sono un po' rincoglionito. Che sì, ha detto comunque seccante, abbi pazienza. Sì, però più se ne parla e più la parola perde di sostanza, capito? No, non è vero, qua mi sembra che sta montando sempre di più, Bah, ma quando non ha senso. Ma non è vero. Per fare una battuta si è sentito sdoganato anche l'onorevole Bocchino l'altro giorno. Vabbè, questa è una stronzata. Davide da Trento, questo ci critica e poi fa la battuta lui. Davide da Trento, Davide. Buonasera Cruciani. Dimmi. Io dovrò dare già un disappunto al suo ascoltatore, perché anch'io vorrei parlare di pompini. Nello specifico, almeno riguardo alla querela di Rai News, guardare un pompino il pomeriggio sarà inappropriato, ma almeno mi dà un'emozione, una gioia. Sentire il livello medio del dibattito parlamentare, penso al Movimento 5 Stelle in primis, mi fa passare la libido, la passione intellettuale, mentale, filosofica per un paio di settimane. Quindi ringrazierei quelle immagini a nome mio e delle altre persone viventi. Vabbè, ho capito, ma non è che ha bisogno di Rai News 24 per vedere quelle immagini. Assolutamente, ma basta che va online e vede quello che è. Certo, è evidentemente una provocazione, però non ci vedo tutto questo scandalo, francamente. Sono polemiche da sottane ottocentesche queste. Va bene, ciao Paolo Roma. Ciao Giuseppe, ciao David, volevo dire, poniamo che domani elezioni vince il Movimento 5 Stelle, onestà, correttezza, la meritocrazia, sì, ma voi dopo che vi mettete a fare? Giuseppe? Beh, ma che vuol dire, scusa, non ho capito, no, che io vuol dire? Non avrete più da che fai tu? Io mi trasferisco in Azerbaigian. Pensate come stai. Faccio la zanzara in Azerbaigian. Senza più pompini, senza più... Cioè, è bellissimo. Ma veramente la parola... Scusi, ma la parola pompini? Cioè, l'ha detta cosa? L'ha detta... Sì. Cioè, l'ha detta uno dei 5 Stelle, le voglio segnalare, Sì, ma senza più pompini reali. Beh, ho capito, però l'ha detto 5 Stelle. La differenza è quello. Senza più pompini, senza più Mubarak, senza più quell'altro che dice il telelavoro. Vabbè. Cioè, sarebbe molto, molto... Immaginate, provate a immaginare solamente, senza Sallusti che dice tutte quelle minchiate allucinanti. Ma perché lei è così nemico della libertà, nemico del pluralismo? Ma no, la libertà è bella quando è associata a una vera libertà. Sì, ed è chi lo decide, lei? Cosa? Chi lo decide qual è la vera libertà? No, lo decidiamo noi, tutti noi, tutti democraticamente. Noi, democraticamente. È appunto questa la cosa bella. Ciao caro, ciao. A domani, 18:30, ciao. Oh, senti, ho dimenticato di dirti una cosa. Oh! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Io vi saluto, vi mando a fare in culo e finisce la storia. Radio 24. La passione si sente.